Vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Faccio la doccia tutti i giorni, mi cambio i calzini tutti i giorni, mi cambio le mutande tutti i giorni e anche la canottiera tutti i giorni. Non porto la stessa camicia per più di due giorni consecutivamente, non vado a mignotte, non mi drogo, non piscio nei lavandini, però se chiudete la zanzara non mi lavo più per un mese e poi mi faccio saltare in aria nella vostra sede. La zanzara non deve chiudere. Nella vita la zanzara non è una delle cose che conta, ma è l'unica cosa che conta. Eccoci qui ragazzi, con David Parenzo in studio, accompagnato da un cashmirino, da un cappotto carissimo, amico dei proletari, amico dei proletari. Amico della parte più debole del paese, sostenitore dei migranti, sostenitore dei profughi, sostenitore del multiculturalismo, presunto amico dei poveri, eccetera, eccetera. Candidato, presunto candidato per la sinistra del nostro paese, si è presentato dentro la sede del Sole 24 Ore, dentro la sede di Confindustria, dentro Radio 24, con un cappottino di cashmere, amico mio. Preso tanti anni fa con la cinta. Sono andato prima alla Fondazione Prada a fare una visita e quindi... Non sei andato al campo rom di Viale Triboniano, non sei andato al campo rom della Chiesa Rossa. Mi hanno invitato alla Fondazione Prada, ma è un reato andare alla Fondazione Prada, non ho capito, perché se uno è il solito. Comunque parliamo di robe serie, l'acquerella Sgarbi. No, come? Beh, per forza. Mi vedo costretto. Allora, Parenzo, due punti, porto in tribunale Sgarbi. Ma no, voglio dire, leggo. Denuncia per diffamazione. No, vabbè, dillo. Vittorio continua a dire che ho io la telefonata. In una intervista fatta oggi al signor Aiello. Allora? Non so perché mi sono arrabbiato con Aiello. Allora? Non c'entra niente. Sostiene Vittorio che io ho ancora la telefonata. Parenzo dice che non ce l'ha, dice Aiello. Vabbè, sul web ho messo un'altra telefonata che mi ha fatto Beppe. Ce l'ha Parenzo la telefonata, continua a insistere. Sgarbi, Vittorio mio, ti voglio bene, sei un amico, ma se continui a dire che io questa telefonata, mi tocca denunciarti per diffamazione aggravata, perché è plurima. Allora, plurima. La notizia è questa. Parenzo, due punti, porto Sgarbi in tribunale per diffamazione aggravata, perché sostiene che questa telefonata esiste e che ce l'ha Parenzo in mano, cosa gravissima, cioè... Parenzo avrebbe in mano una telefonata registrata in maniera fraudolenta a Grillo. Quindi sarebbe ricettazione, sostanzialmente. Siccome io non voglio essere accusato di ricettazione, né di aver registrato telefonate, perché io non registro le telefonate di chi mi chiama. Non urlare, però. No, perché è la mia dignità. Un conto sono i miei cappotti, un conto sono le persone che vedo in giro. Ma dire che io registro le telefonate è una diffamazione, amico mio. Non si può più tollerare. Chiudiamo qui, 18:38. Ma no, grazie a chi ci ha seguito. Linea alla rete, a Barisoni, ma a Melog, che è un ottimo programma, molto serio e culturalmente rilevante, non questa porcilaia che dà voce a razzisti, nazisti, gente che si fa sbiancare l'ano, non va più bene. Una trasmissione che sarebbe da chiudere, lo dico contro il mio interesse, pagatemi ancora, continuate a pagarmi, ma chiudete la trasmissione. Scusa, non ho capito. No. Parlano di pipì nei lavandini, certo. Qui si invita costantemente ad andare andare con i transessuali, si reputa in questa trasmissione normale fare le gang bang. Beh, si reputa non è normale. Si reputa normale fare gli scambi di coppia. Beh, certo, e si incita a fare gli scambi. È una trasmissione moralmente vergognosa. Io non so perché una struttura così dignitosa, della struttura di Renzo Piano, la radio della Confindustria, boccia. Come fate a tollerare sta roba? Chiudetela, chiudetela. Facciamo una trasmissione! Oh. Una trasmissione da urlo! Ecco, il bello è che lui non è che sta dicendo questa cosa per fare lo show, le pensa sul serio. Cioè, le pensa sul serio, questa sì, è la cosa grave. È grave, questa certo, è la cosa chiusa, grave. Io no, è una cosa gravissima. Sono qui a combattere per far chiudere. Ho capito, cosa. Ma è gravissimo questo. Comunque, ragazzi, parliamo di Sanremo. Allora, cosa è successo? È successo, a me dispiace, perché è un'amica mia, io lo confesso, un'amica mia, però come sapete, io me ne sbatto del fatto che sia mia amica. Ogni tanto sono andato a delle cene a casa sua, una persona gradevolissima che reputo anche molto intelligente. Ma non vai a cena alla messa dei poveri, alla Caritas. Mai detto io però, mai no, detto. Neanch'io, mai detto. Però ho detto che tu dovresti. Che... dovresti. Ah, siccome io andare alla Prada, dovresti andare alla mensa dei ma poveri. Ma non ho capito qual è. Siccome sostengo che, che il reddito va redistribuito, che i ricchi vanno tassati, siccome sostengo che i ricchi vanno tassati, non posso andare alla fondazione. Però aspetta. Ripeto, torniamo su Sanremo, dai, non apriamo troppe parentesi. Allora, Caterina Balivo ha ottima detto, conduttrice. Sì, a 10:30 di dunque, nel pieno della serata sanremese, pieno verso la fine, mentre parlava la signorina Diletta Leotta, sai sì, che la signorina Diletta Leotta, quella che ha subito quella terribile incursione informatica e furono pubblicate le sue nudità sostanzialmente, esatto, i suoi rapporti sì. E dunque è stata invitata lì per parlare anche di queste cose qua. Beh, ma giusto. Soprattutto è stata invitata perché è una gran figa, diciamo la verità, questa è la sostanza, nessuno vuole nascondere questa cosa qua. Beh, cioè la presenza della signorina, se avessero fatto una incursione informatica nel nella cosa di Napoletano, di Roberto Napoletano. Di Roberto Napoletano nudo. Non l'avrebbero visto. Dai, forse sì, perché comunque. No, però mai. Non avrebbero pubblicato. Non sta mai nudo. Non sarebbe andato sul palco di Sanremo. Ecco. Non sarebbe andato sul palco di Napoletano. Sanremo a testimoniare. La invitano. Cyber Security. La invitano sul palco di Sanremo, signora Leotta, perché. È una gran figa, questa è la sostanza. Beh, ma anche perché ha subito questa ma cosa. Ma no, ma perché è una gran figa, dai, un sacco di gente. Comunque ha lei è coraggiosa ad andare. Ma non è coraggiosa ad andare dove? Sul palco, affrontare questa cosa e a rimettersi in gioco rispetto a questa vicenda. Allora, Caterina Balivo, mentre parla la Leotta, che ha detto la Leotta a Sanremo? Sentiamo due o tre cose, dai, tanto ha detto due cazzate. È stata tosta. È stato un colpo molto violento e dopo una prima fase di forte sgomento ho deciso di reagire. Vabbè, due cazzate, dai, è stata tosta. Vabbè, ti credo. Una fase di forte sgomento. Vabbè, ti credo, pubblicando le tue foto nuda, sì, scusa. Vabbè, però banalità, che è chiaro. Che le vedono milioni di persone. Non ha detto cose nuove. Ma altri si sarebbero suicidati. Ragazzi, io le ho viste quelle cose, mi sono divertito. Ma se, tu, perché sei un porco. Ma no. Ma altri si sarebbero, se fossero state della tua fidanzata. Ah no, a te fa piacere perché già tu sei quello che dice che è bellissimo trovare la propria fidanzata a letto con un altro. E anche qui fai passare queste cose del campo della normalità. Ma invece per una persona normale, ho detto che in questo vedere caso le foto della propria fidanzata pubblicate nude davanti a milioni di persone provoca un imbarazzo alle persone normali. A te provoca eccitazione. Vabbè. Motivo in più per chiudere questa latrina. Vabbè. A questo posto. Allora, la signora Leotta, mentre pronunciava queste parole, a un certo punto la Balivo scrive: non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna. Una stupidaggine. Cioè, è una cazzata, dai. Una cazzata colossale. Una sciocchezzuola, dai. No, ma che sciocchezzuola, una cazzata colossale. È una cazzata, è come dire, se tu giri con la minigonna o se giri con le tette un po' fuori o vai per strada, come vanno molte ragazze, giustamente, come molte donne oggi, certo, da un po' di anni a questa parte, da 20-30 anni a questa parte, allora provochi lo stupro, certo, inciti allo stupro, sei un po' colpevole, te la vai a cercare. Stupidaggine. È lo stesso ragionamento. Non si capisce perché la Leotta non può parlare sul palco di Sanremo della privacy, di una cosa, della violazione che ha subito, dell'hackeraggio che ha subito delle sue foto, portando a Sanremo. Come doveva andare? Vestita col burka a Sanremo? Come doveva andare? Coperta in modo innaturale? Va sempre così? Cioè, si veste in maniera con un vestito, mi dicono, di oltre 10.000 euro. Non voglio dire chi è lo sponsor del vestito, che non me ne frega niente. C'è un vestito molto caro che gli è stato offerto da qualcuno. Molto, molto succinto. Un vestito piccolo, piccolissimo, in cui sì, si vedeva, certo, ma come cazzo deve andare? È una gran figa e mostra il fatto che è una gran figa. No, ma soprattutto c'è il diritto di mostrare quello che si vuole. Cioè, qual è la questione? Lei, giustamente, con quel vestito ha deciso di mostrarsi perché è una bella donna, ma non per questo ha diritto a subire intrusioni informatiche. Ma quello certo. No, ma la differenza è questa: può andare con una, anche senza gomma. Poi la Balivo si è scusata, ma scusa, ma perché Caterina ti scusi? Poi hai detto. Conto, hai, no, ma forse c'è il fatto che la Rai, la stessa azienda, le hanno fatto una ramanzina, non lo so. No, ma no, il punto. Beh, può essere pure. Credo. Il punto è un altro: se tu hai detto in quel momento quello che pensi, o dici ho perso la Trebisonda, ero ubriaca, oppure non è che rinneghi quello che penso. A me questo mi fa impazzire, le scuse postume un giorno dopo. Cosa si scusi? Hai sbagliato a scusarti. Devi dire effettivamente penso questo, che uno non può parlare di privacy con lo spacco inguinale, che è una minchiata, però va bene, se lo pensi sostienilo, continua su questa cosa. No, mi scuso. Ma che ti scusi, cazzo? Hai detto quello che pensi. Tra l'altro non è stata la cosa di un momento, perché poi parlando su Twitter, scrivendo su Twitter sempre intorno a mezzanotte e mezza, continuava a dire non fare i pippotti vestita così, rispondendo a quelli che la criticavano. Comunque, Caterina, mi dispiace, ti devo criticare, sei amica mia, ma io non guardo in faccia a nessuno. Hai detto una minchiata però, colossale. Vedi, Caterina Balivo fa il mea culpa. Caterina, no, Caterina. Caterina Balivo fa il mea culpa. Senti, mea giusto culpa, senti, mea culpa. Culpa. Dai. Diletta Leotta, tesoro. Diletta Leotta, è qui. Un attimo, ti devo rubare la parola. Perché ieri sera, prima di andare a dormire, ho postato un tweet infelice. Lo direi, ha scatenato tantissime polemiche. Allora, ho espresso un giudizio sull'atteggiamento, me ne dispiace, non sono nessuno per giudicare un atteggiamento di un'altra donna. Ma che bordi, ma che so, scuse, cioè non dovevi dire, cioè mi fa impazzire questa cosa, dovevi stare zitta, ho detto, è quello che pensavo in quel momento, punto. Cioè, che tu non hai diritto ad andare sul palco di Sanremo con la spaccatura inguinale, facendo vedere le tue bellezze, eccetera, se ti hanno violato la privacy, che è una follia, non si capisce perché. Cioè, vabbè, che vuoi dire? Niente. No, che ha chiesto scusa, quindi eviterei ma il linciaggio. Ma la scusa che servono, ma non c'è nessun linciaggio. Balivo, eviterei il linciaggio. Vabbè, dai, già mi sono rotto i coglioni con Sanremo, vabbè. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Vabbè, adesso parliamo un po' di Crozza su Salvini, sempre Sanremo. Vabbè, sentiamo pure Crozza su Salvini, dai, su. Molto divertente. Con Salvini incazzato, dicendo che è un milionario, non può fare la morale, eccetera. Cosa ha detto? Eccetera. Questo chi l'ha detto? Salvini. Poi, ma sentiamo tutto, prima sentiamo tutto. Purtroppo dobbiamo rimanere ancora su Sanremo. Ragazzi, io vorrei parlare di altro e parleremo di altro. Giusto. Ma restiamo su Sanremo, che è stato vinto dal 50% degli italiani. Milioni, cioè di chi persone. Stava alla televisione e dunque probabilmente anche da molti ascoltatori della Zanzara, sicuramente. Io non ho visto manco 30 secondi, cioè nemmeno 30 secondi. No, io ho visto tutte mia le figlia canzoni. Insisteva un po' su Sanremo e ho detto senti, andiamo a fare un'altra cosa, cioè, comunque, vai. Perché Salvini ha detto che il tuo compenso è vergognoso e che la Rai dovrebbe darlo ai terremotati. Sai cosa ti dico, Carlo? Ha ragione. Ti dico di più. Io ai terremotati darei anche lo stipendio di Salvini. Con quello che ha guadagnato a Bruxelles in questi anni, cazzo, ci ricostruisci tutto l'Abruzzo in marmo di Carrara. Vabbè, facile battuta però, ma che cazzo ridi? È bellissima, ci sta perfettamente. No, no, questo è facile. A populismo dai. Si risponde con populismo. Sì, però è facile questo. E poi un politico che critica un comico è patetico. Un politico sì, che sì, questo è sbagliato, non doveva nemmeno rispondere. Comunque, ancora Crozza, che lavoro poi fa poi con la vecchia polemica di Crozza che siccome sarebbe di sinistra allora non può guadagnare soldi meritati, talento meritato, soldi meritati quelli di Crozza. Ma che poi, scusate, ma che lavoro fa Salvini? Appunto. È pagato dall'Europa, è pagato dall'Europa per dire che dobbiamo uscire dall'Europa. Capisci, Carlo, che è come se tu venissi pagato dalla Rai per dire che dobbiamo guardare Sky. Devo dire che non è male questa. Ci sta anche questa. Cioè, perché è pagato dal Parlamento europeo per dire che fa schifo. Che fa schifo il Parlamento europeo. Ma se tu pensi che addirittura Maria, tu lavori gratis, Maria non ha nemmeno voluto un voucher di Poletti. Ragazzi, io ve lo dico subito. Io sono di Genova. Col cazzo che lavoro gratis. No, ve lo dico. Sì, diciamo, specifichiamo un po' questa cosa qui. Diciamo, lavora gratis quei giorni a Sanremo perché ha una un'altra serie di milioni di euro incassati da altre parti. Ma perché le conviene, dai, non si fa niente gratis. Incassati perché il privato, certo, ha ritenuto che valesse, sì, quella cifra. Sì, ma per carità, assolutamente, però allora, nessuno chi ha deciso quanto vale non Salvini? Non si fa niente per caso, chi non si fa niente per generosità. Ma il mercato ha deciso quanto vale Salvini. Lascia perdere Salvini, è la questione di Maria De Filippi. Prende i soldi dal Parlamento europeo. Non è che Maria De Filippi fa gratis Sanremo perché è generosa verso Sanremo, perché strategicamente le conviene andare gratis, perché incassa altri milioni di euro dall'altra parte. Dunque, e beh, è importante questo, perché l'immagine di dire, perché dire io non prendo un euro dal pubblico, certo, è molto più forte piuttosto che incassare che 200.000 euro, 300.000 euro, che per lei non però, ma proprio per Sanremo ha lavorato. Ma nessuno dice niente. Adesso tu dici che le conviene, ma le, certo, conviene assolutamente. Le converrà, d'accordo. È come, un investimento sull'immagine. Se ma tu lei prendi... non ne ha bisogno, perché già sì, c'ha un'immagine, sì, forte. No, già ma lavora. Le conviene dire io dalla RAI, dallo Stato, dai contribuenti non prendo un euro. Posso dirti, è un bellissimo segnale, non è neanche neppure lavorare gratis, no? Non è neppure demagogico, perché lei dice io già ho guadagnato tanto, sono una professionista, ho avuto tanto dalla mia vita. Cosa è generosità? Che al pubblico, che al servizio pubblico non chiede una lira. Ma che generosità, è generosità secondo te? Vabbè, ma tu sei pazzo. È generosità. Ma tu conosci il cinismo della televisione e pensi che ci sia, che in questa roba qui ci sia generosità? Perché dico, lei è una donna che talmente ha guadagnato tanto, giustamente che cinica, non ha bisogno di quello. È giustamente cinica da fare un discorso di investimento e di dire non guadagno un euro. Aspetta, non guadagno un euro perché non voglio essere criticata perché prendo i soldi dal o forse perché con Mediaset ha fatto un accordo che non prendo i soldi dalla Rai, sì, non lo so, appunto, cioè, bene, non lo so. Bene. Va bene, perché bene o male? Che cazzo mi frega a me? Cioè, bene o male? Salvini su Crozza, dai. A parte il fatto che Crozza guadagna in 5 sere quello che io porto a casa in più di un anno, poi uno può avere stima o non stima di Salvini. Però per carità, buon per lui, esatto, chapeau, cioè, mi tolgo il cappello. Li pagano perché non è un grande professionista. Non sono un invidioso e quindi non sono un geloso. Però è facile pontificare con qualche milione sul conto corrente. Caro Salvini, ti conosco e questa polemica non ha senso, oggettivamente. Meno male. Dai, non ha senso. Dai. Che è quella contro il radical chic, peraltro. No, cioè, ma dire non ha senso, che no. Chi vive del proprio lavoro e guadagna, magari guadagna anche tanto. Sì, devo dire che Crozza... Non può parlare delle diseguaglianze. Sì, devo dire che Crozza... È una stupidaggine. Devo dire che Crozza su Salvini ha un'ossessione. Cioè... Perché oggettivamente fa molto ridere. Come sì, fa molto ridere, sì, Trump. Sì. Come fanno molto ridere tanti altri di questi qui, di trampettini all'italiana. Vabbè, fanno ragazzi. Ridere il formaggio, fanno ridere... i Borghezio fanno ridere questi tutti Andrea questi da Bologna, qua. Dai Andrea. Andrea? Pronto? Vai Andrea, pronto? Dimmi. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Dimmi, guarda, io sono di Vasto, sono di Vasto. Volevo dire che voi avete affrontato questa storia in maniera un po' troppo colpevolista nei confronti del ragazzo. Soprattutto perché avete colpevolista nei confronti di chi, scusami? Di quello che ha sparato, cioè che è oggettivamente colpevole della cosa, però quello è un bravissimo ragazzo, una persona che ha vissuto una situazione non ma chi ha detto che non è un bravo ragazzo? Dico semplicemente che ha preso una pistola e ha ammazzato uno, che cazzo vuol dire? Cioè, a parte che io non sono colpevolista per niente, anzi ho detto al contrario che la rabbia non la sua, la rabbia delle persone... L'avete preso per il culo, dai! Ma l'avvocato si presta la presa per il culo per come parla, per quello che diceva, che vuol dire? Dai, su... Cioè... Ma che c'entra prendere per il culo per come parla? Allora io prendo per il culo per i capelli che porti, non ho capito. E prendimi, infatti la gente mi piglia per il culo, certo non me la prendo io. Se mi vuoi ma pigliare io non ti prendo per il culo. Puoi per anche i capelli prendimi porti, per il culo per i capelli, non c'è nessun problema. Prendimi per il culo. Qui si può fare tutto, non hai capito ancora. Qual è il problema? Ho capito, ma e lo allora? So che si può fare tutto, vi ascolto tutte le sere, lo so che si può fare tutto. Però quello che ti dico ma che, a è me, che se Fabio Di Lello, l'omicida di Vasto, il fatto che sia un bravo ragazzo, te lo dico sinceramente, non me ne frega nulla. Che me ne frega a me se è un bravo ragazzo o un cattivo ragazzo, scusami. Ha preso la pistola, ha ammazzato uno? Beh, mi sembra chiaramente omicidio volontario. Poi forse preda raptus, queste sono cose di avvocati. È omicidio volontario, punto e basta. Di che stiamo parlando? Non c'è dubbio. Nessuno mette in dubbio, a parte il fatto che bisogna vedere se lui era in condizioni di stendere il volere in quel momento. Ma che fai l'avvocato? Ma che fai? Ma chi se ne frega? Ha preso la pistola e ha ammazzato uno. Ma l'omicidio lo decide, Cruciani. Vabbè, allora non ha ammazzato, allora è vivo quell'altro. Allora quell'altro è vivo. Allora quell'altro è vivo. Vabbè, è vivo. Allora quello è vivo. Ma l'omicidio, la colpevolezza è sottoterra. Quello è sottoterra. La Cassazione è sottoterra. Quello, amico mio, ha confessato. C'è la pistola. Parenzo, tu allora tu per piacere hai sempre quest'aria da persona che sa tutto. Il tuttologo ti sta. Di sta ceppa, cioè che cosa stai dicendo? Saluti a casa. Di sto cazzo. Conosci la situazione? Ti dice di sto cazzo, no? Di sta ceppa. Non ho capito, mi scusi. Allora mi illumini lei, è morto dal freddo? Allora, la situazione è come Gesù, questo, è morto dal freddo. Questo è un ragazzo che è sempre stato un lavoratore, ma chi ha ucciso allora? Ma che c'entra che è un lavoratore? Scusa, ma chi ha ucciso allora? Potrebbe anche essere in una condizione non incapace di intendere di ma questo lo dirà il processo. Ma infatti, questo lo dirà il processo, va bene, certo. Ma voi li state facendo i processi? Avete preso ma quale noi? Ma lei è totalmente ubriaco. Lo zio l'avete fatto parlare in tranquillità, in libertà, dicendo cose non vere, perché probabilmente quello, cioè, non tutto quello che ha detto lo zio era vero. Io non ho capito. Allora tu devi arrivare alla conclusione di quello che pensi, non essere ipocrita. Tu ha fatto bene ad ammazzarlo. No, Cruciani, tu sei uno stronzo. Io non ho detto che ha fatto bene. Ma non sei, non è che la tua opinione è quella del Papa, è uguale. No, io non ho detto questo, ho detto che voi lo state colpevolizzando. Noi colpevolizzando. Ha confessato. Ma potrebbe anche essere in una condizione incapace di. Ma quello lascialo decidere i giudici, ma che ce ne frega a noi incapace di ma che vuol dire incapace di intendere di volere, ragazzi? Non vuol dire niente, dai, non diciamo cazzate. Tutti quando ammazzano sono sovreccitati da qualche cosa, no? Non esiste più in questo paese. Ma è tanto garantista. Andrea, ma sei di Vasto tu? Di dove sei? Sei di Vasto? Sei amico di Dirello? No, lo conosco. Ecco, questo è il punto. No, ma giusto per sapere, ci sentiamo dopo, ciao. Cruciani, vorrei farlo io il tuo mestiere. Fai 10 minuti di trasmissione, 20 minuti tra pubblicità, GR, traffico, cazzi e mazzi. Ci tua. Benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. La Zanzara. Ciao Cruciani, senti il capocantiere appena finito di fare la riunione, dice tutte le sue stronzate, poi ci guarda e ci dice forza ragazzi, andiamo a lavorare. E io gli rispondo, io non faccio operaio, yeah! Oh, oggi è una bellissima giornata e sono davvero ottimista e in forma. E quindi, Cruciani, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Grazie. Oh, eccomi qui, ragazzo mio. Vado serenamente a fare in culo. Allora, vi consiglio di non perdere questa puntata di stasera della Zanzara. Io non lo dico mai, perché più avanti credo che riusciremo a contattare un signore, il padre, forse, se riusciamo, perché non è ancora sicuro, il padre di un ragazzo stuprato, violentato da un prete. È una vergogna assoluta quella che è accaduta, non quello che è accaduto, anche quello che è accaduto ovviamente, ma sappiamo che esistono i preti pedofili da un sacco di tempo. Il fatto che nessuno ha denunciato, quelli della curia quando si sono accorti, il fatto è avvenuto in Puglia, quando si sono accorti che questo qua stuprava i bambini, non lo hanno denunciato alla magistratura. Bravissimo. E questa qua ha fatto l'allenatore di calcio e ha continuato a stuprare i bambini. Dunque restate qui perché più tardi una testimonianza incredibile di un signore, un padre di famiglia, il quale ha visto il proprio bambino di 13 anni stuprato da un prete. A proposito di preti, ma esistono i rabbini pedofili? No, è impossibile. Ma com'è impossibile? Non c'è ma nessun caso impossibile? Al mondo. Non ho capito. Non c'è caso, non ci sono casi al ma mondo. Ma chi te l'ha detto? Non ce è vero. Lo dico io. Parenzo, non esistono rabbini pedofili. No, è sciocca la Zanzara. No, ma nessuno sciocca. Gli ebrei non stuprano. No, beh, non c'entra. Quello non lo so. Non esiste caso al mondo. Poi anche ma che ne sai? Non esistono rabbini pedofili. Non ci sono casi. Ma no, perché non dovrebbero esistere? Scusa, perché? Non ho capito. Ci saranno perché pure. No, perché c'è un senso della morale, dell'etica. Non esiste. esistono. Esistono altri reati, esistono. Ma dai, non forse, è possibile ma... che non esistano rabbini pedofili. No, non, non c'è un caso al mondo, non esiste. Ma non esistono, sai perché? Perché potendo, siccome i rabbini, a differenza possono dei preti, scopare, si possono sposare, hanno l'obbligo di fare l'amore con la propria moglie, hanno l'obbligo, l'obbligo. No, no, l'obbligo, hanno l'obbligo addirittura, come ci e racconterà. E se non la soddisfano? Ecco, la moglie può chiedere il divorzio, cioè il, è bellissimo, il ebraicamente tu devi far, come dire, devi soddisfare, non voglio usare altre parole, la sì. donna, devi farla stare bene. Beh, devi trombare bene. Ecco, non c'è scritto esattamente nei testi sacri, non è scritto esattamente così, però il concetto è quello. Cioè quante volte la devi fare venire? No, adesso quante non è normato. Però deve uscire soddisfatta. Però dal deve, assolutamente, se tu ironizzi e scherzi, ma io ti assicuro che così, e siccome intervisteremo nei prossimi giorni un importante rabbino. Ma presentacelo sto cazzo di rabbino, è una vita che stai dicendo, c'è un rabbino che vuole intervenire. No, ce l'ho qui, mi ha anche scritto. Ma non dire il nome adesso. Come no, lo dico pubblicamente perché mi ha scritto anche oggi, mi ha scritto. Dicendo che vuole intervenire. Rav Shlomo Bechor, questo qui che ti voglio far vedere con suo figlio, con questa bellissima barba rossa, un che rabbino. Proprio oggi stupendo. Mi ha scritto: se passi da Milano va bene, ti invito a cena, come stai? Da mo' che non ci si sente, quando ci salutiamo vis-à-vis, complimenti sempre perché fa ridere, è una grande mitzvah della Torah, cioè fa ridere le persone. Cosa? Dice: io ce la metto tutta ma voi mi stracciate, sì. Ma viene a parlare di sesso il nostro rabbino? Siete e me sempre frega bravissimi, me. Dillo a Cruciani, anche se è malato di sesso, scrive il rabbino. Sì, ma ho capito, scrive d'accordo. Il rabbino scrive che Cruciani è malato di sesso, perché il rabbino ha capito tutto. Ma purtroppo è l'unico argomento che sveglia gli italiani. Ma scusa, sto cazzo di rabbino viene a parlare o no? Allora, intanto perché devi ma no, cazzo di rabbino è un'espressione, così mica dico cazzo di rabbino. È un rabbino ottimo, è un grande rabbino. Però la domanda è sempre la stessa. Sì, perché non esistono rabbini che stuprano? Molto attuale sul sesso che ho messo sul mio post sì, però su Facebook. Non è che viene qui a farci due coglioni così, no? No. Ma che, ecco, sempre trattare questo. Così le persone. Allora ragazzi, però a proposito di preti, c'è sempre la vicenda di Don Contin che sta lì, appoggiato peraltro dai suoi, Don Contin lo sapete, no? Il prete di San Lazzaro, Padova. Tutti quelli della chiesa lo salvano dicendo che era un buon prete, anche se trombava in canonica, e pare che ha commesso anche dei reati, ma su questo io non voglio andare. Don Merola, sai chi è Don Merola? Sì. Come no? Lo ricordi, il prete di Napoli, quello certo. di Forcella, credo certo. che sia di Forcella, eccetera. Forcella. Sì. Dice che Don Contin non era abbastanza impegnato. Cosa vuol dire impegnato? Cioè, scopava perché non era impegnato. Cioè, aveva troppo tempo libero? Evidentemente sì, cioè non era impegnato in parrocchia, non si impegnava troppo con i suoi fedeli, con i suoi con le sue pecorelle, come si diceva una volta, no? Donne, che cazzo è, Mero? Se noi non facciamo la promessa al celibato, noi facciamo un voto di castità. Se un prete però non è impegnato la mattina alla sera, e non ci dobbiamo scandalizzare che succedono queste cose. No, invece ci scandalizziamo un po', devo dire. Un prete a mattino... No. Qualche tempo fa i preti a mattina andavano a scuola, insegnavano, non stavano senza fare nulla. No, quindi mi faccia capire, quello che è successo, quello che faceva Don Contin era perché non era abbastanza impegnato? Non solo questo, io non lo posso dire perché non lo conosco. Allora, ragazzi, diciamoci la verità. Don Contin, il famoso prete trombadour di Padova, faceva certe cose perché gli piaceva la figa. Ma mi pare abbastanza chiaro, ma non c'è nulla brutale da aggiungere. A Don Contin piaceva da matti la figa, ma tra l'altro lo diceva pure in maniera molto chiara. Piacendo a lui la figa, diciamo faceva di tutto. Diciamo quella, l'azienda femminile, dai. Sì, l'azienda femminile. Usiamo un termine più economico. Gli piaceva la figa, ma è normale. Faceva di tutto per procacciarsela, anche cose con le sue parrocchiane, giochi a due, giochi a tre, giochi a quattro. Adesso io non so se abbia istigato. Beh sì, orge ha fatto. Scambismo, orge, locali, tutto. Ma sta scherzando? Ma non hai detto niente di Don Contin? Oggetti sessuali, faceva qualsiasi cosa. Dai, anche oggetti, ma certo, dai. Sì, oggetti, assolutamente. Ma che mondo è? Vabbè. Comunque sentiamo la voce della gente che dice lo perdono, non ci sentiamo traditi. Perché alla fine hanno ragione questi, al di là dei reati, hanno ragione quelli che dicono uno può essere un bravo prete anche se è in canonica, se tromba due, tre, se fa le orge in canonica, ma assolutamente non la gente... è previsto da quell'ordinamento. Ai fedeli però non frega nulla, ai veri fedeli quello che fa un prete, se tromba, non frega nulla, assolutamente nulla. Se uno è bravo, se uno è uno che fa le cose che deve fare, ma che deve fare? Una delle cose che deve fare è il voto di castità, scusami. Ma chi, però, che gliene frega la gente del voto di castità? Se è un prete, ma scusa, se la nonnina, questo è interessante, adesso farò fare un sondaggio. Se uno chiama, a lei, se un prete scopa, interessa o no? Lei è cattolica, interessa o no? Se dice bene la messa, se organizza le cose, ma in parrocchia. Una delle cose che deve fare quello lì è fare quello, cosa? Se no ma fa che... il conduttore della zanzara, no? Ma che c'entra, dai, su non essere stupido. Ma scusa. Voci da Padova. Perdona Andrea. Certamente, ma stai scherzando? Sono un cristiano. Ha buona fede. E poi c'è la discussione. Hai sentito un po' traditi? Assolutamente no. Ma scusa, cosa avrebbe dovuto dire Gesù di Giuda? Mi pare che le abbia combinate più grandi Giuda, no? Ragazzi, ma la gente non gliene frega nulla, dai. Riccardo da Catanzaro. Allora, molti ci scrivono: non è vero che la De Filippi non guadagna a Sanremo? Perché in realtà un mio carissimo amico mi scrive: a lavorare per Sanremo non c'è, c'è anche mezza scuderia di amici legati al contratto con la De Filippi che prende la percentuale come agenzia, ma quale gratis? E ci sono anche gli sponsor che si porta appresso. Dunque, adesso questo bisogna vedere, non me ne frega niente, ma la, come dire, l'immagine della De Filippi che lavora gratis forse non è così, no? Forse non è solo così, no. C'è qualcosa anche dietro, qualcosa di legale, per carità, mica qualcosa di illegale. Però non è gratis e basta. Dietro c'è un ritorno. Io penso che sia solo un ritorno d'immagine. Può darsi che ci sia invece un ritorno di sponsor, di gente che della sua scuderia che lavora lì e lei prende la percentuale. Tutte cose legittime, per carità. Riccardo Catanzaro dice che ci facciamo nemici pure la De Filippi. Sì, ma io... Dimmi, Riccardo, dimmi. Allora, no, cioè, sono d'accordo con te. Per me, cioè, i preti possono scopare. Vabbè, Riccardo, questo. Eccolo qua. I preti possono scopare. Cambiate le... Io, secondo me, la legge della Chiesa che praticamente i preti non si possono sposare, sì, la trovo arretrata. Vabbè, questo... Perché per me un prete è un uomo come tutti gli altri, cioè non è che gliel'hanno tagliato, cioè questo voglio dire, il pene ce l'ha. Questo quindi... non risulta. Dovrebbero, magari dovrebbero, non lo so, glielo tagliassero, facessero preti eunuchi se non vogliono i preti pedofili, facessero i preti eunuchi. Potrebbe essere una soluzione. Dalla pedofilia sono d'accordo sulla castrazione chimica, perché là si vanno a violentare i bambini, per me chi tocca i bambini deve morire. Vabbè, cioè, poi... Però sul fatto che si possono fare una famiglia è un diritto che secondo me a loro gli spetta, la Chiesa si dovrebbe modernizzare su questo. Vabbè Riccardo, abbiamo capito, la Chiesa si dovrebbe modernizzare, vuoi aggiungere qualcosa? No, poi volevo parlare un attimino del fatto di Sanremo. Che non trovo adeguato al contesto il fatto che va quella a parlare, che hanno pubblicato le sue foto nude, cioè, ma insomma, che cazzo me ne frega a me che guardo Sanremo, cioè devo in una trasmissione del festival della canzone italiana, devo ascoltare. Ma cosa c'entra? Ma quello è un grande contenitore, dove c'è tutto, c'è anche la parità. Però Riccardo esprime una specie di disagio, dice: io voglio sentire canzoni, o comunque voglio... Ma che c'è, da di fronte a milioni di spettatori può passare anche un messaggio che non è soltanto la canzone, ma tra una bella canzone e uno sketch di un comico ci sta anche una cosa seria come quella del bullismo. Si deve raccontare i cazzi suoi, di quello che ha subito, andasse a quarto grado, voglio dire, ma no a Sanremo, cioè... Ma tanto non decide lei, per fortuna, cosa va o non va a Sanremo, ma lo decide il signor Carlo Conti. Sì, però è legittimo che Riccardo, scusa, ma perché non deve avere cittadinanza all'opinione di uno come Riccardo, che dice Riccardo... a me di sentire la Leotta. Certo, molta gente è rimasta a sentire, per carità. Milioni di persone, sì, dai. Anche perché non c'è altra roba da vedere, ma è vero, c'è. Però Riccardo offerta. Dice che cosa? Dice: a me che cazzo mi frega di sentire la Leotta che parla dei suoi video, di chi li ha pubblicati. Giusto, Riccardo, che dici tu? Sì, certo, ma fuori contesto. Cioè io accendo la televisione per guardarmi le canzoni, le belle canzoni. Ho capito, canzoni. Ma tra una canzone e l'altra. Non ci sono solo canzoni una... a Sanremo, no. Vabbè, Riccardo, ciao. Paolo da Milano, dai, Paolo. Paolo. Pronto? Dimmi, Paolo, dimmi. Buonasera. Posso raccontare una storia molto seria che mi è successo lo scorso dicembre? Sì, sì, assolutamente, però aspetta un attimo allora, se è una storia seria. Sempre sintesi, mi raccomando, non ci attaccare il pippone pure te, quello che la Balivo ha attribuito alla Leotta, il pippone, tra poco. Cruciani, ti volevo dire che adesso devo andare in palestra, io che cosa faccio? Metto la zanzara così, pompo di più i muscoli, sì! Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Mia Cruciani, ma come fai a vivere sapendo che non potrei mai ascoltare in diretta una puntata della Zanzara? Cioè ragazzi, fare la Zanzara è veramente un lavoro di merda, non puoi ascoltare la Zanzara. Che schifo. Beh, questo è un ragionamento interessante, questo che fa questo ascoltatore, è un ragionamento molto interessante. molto interessante. Effettivamente io non posso mai ascoltare la Zanzara, vero? Mai. Anche tu non puoi mai ascoltare la Zanzara. No, io quando sono in macchina l'ascolto. Ma dove? Come fai a ascoltarla? Quando sei al telefono. Ma come fai a ascoltare la Zanzara? Quando sono sui taxi, quando giravo di più l'Italia per raccontare le prima, storie. D'accordo, prima, d'accordo. Ascoltavo la Zanzara. Attenzione, attenzione, Luca da Roma, Luca. Eccolo, dimmi. Ciao a tutti. Sono no, Luca, aspetta, eravamo allora, con Paolo. Dopo Paolo arriviamo, però Luca deve dire una cosa forse, perché c'ho scritto qua: Parenzo si sbaglia, rabbini pedofili, Luca. Oh, bravissimo. Ha detto che qua non si giudica nessuno, perché poi in realtà, a parte che tutti i reati vanno condannati, e soprattutto quando parliamo di pedofilia all'interno della Chiesa, io sono un cristiano, sono papà di 7 bambini, quindi insomma sono molto sensibile sia alla religione, alla fede, ma anche a quello che riguarda questo, questa piaga sociale che è la pedofilia. Vabbè, allora? Quindi, ok, Parenzo, ma clicchi sul suo cellulare, se ce l'hai in rete. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Ok, rabbini pedofili. Vediamo. Ma è pieno. Una letteratura completa ed è pieno. Ma è pieno, ma è normale. Ma è normale. In America, è pieno, arrenditi, è pieno di rabbini pedofili. Come i preti, anche i rabbini. Come i preti, anche dove? Rabbini. In America sarà successo. Ma i preti, i rabbini, ma che c'è? Che mi frega, politici. Ma dove? Dove lo vedo qui? Cos'è che c'è? L'occultamento della. Dov'è? Ma ce n'è, ma guarda, ce ne sono 20 pagine. Quindi voglio dire, al di là di tutto, io capisco che insomma, nella sua religione ebraica, lei voglia difendere i rabbini, però insomma. E il concetto è che questa è una piaga sociale che riguarda tutti. Tutti, quindi, sì, insomma... no, ma questo siamo d'accordo, certo. Ci ecco. Vabbè, Luca, ciao Paolo. Però io ho detto semplicemente, poi dei casi ci saranno sicuro, che la questione però del sesso per la religione ebraica è diversa da quella cattolica, non è considerato impuro. Vabbè, perché i rabbini possono scopare, dai. E i rabbini, a differenza dei preti, non hanno il tabù sessuale. Vabbè, Paolo, dai, Paolo. Comunque, ma chi se ne frega, adesso dobbiamo fare mica forum sì, ebraismo. Dai. Paolo, dimmi. Eccomi. Dai. Allora, in passato sono stato un imprenditore rovinato da una truffa a cui si è aggiunta la cattiva politica e nel mio caso la legge ingiusta e corrotta. Mi trovo come oltre 4 milioni di italiani in gravi difficoltà economiche, anzi in indigenza, abbandonati dallo Stato e dalle istituzioni senza nessun aiuto economico. Costituzionalmente derisi e presi in giro. Vabbè, che stai a fare? No, lasciamo parlare, è importante. Ma ho capito, ma che stai a fare? È un comizio? Sentiamo, cioè, stai leggendo stai leggendo qualcosa che hai scritto? Mi pare un comunicato importante, sì. Sentiamo. Beh, hai scritto una cosa, hai letto una cosa. Una cosa molto importante. Vabbè, molto importante. Se volete, la leggo. Mi stai poi dicendo dopo... che c'hai le pezze al culo. Vabbè, d'accordo, hai le pezze al culo. C'ho le pezze al culo, aspetta un attimo. Poveretto. Hai le pezze al culo, ma la realtà... Ma qual è il reato? Che ne sappiamo noi? Adesso tu ci viene a raccontare. Te lo sto leggendo. E ho capito, ma lo dici tu che c'è il reato? Lo dici tu che c'è il reato? Aspetta, non te l'ho ancora letto. Vabbè, e leggimela avanti. Facciamo st'altro comizio. Allora, a metà dicembre mi sono recato presso l'assessorato delle politiche sociali del Comune di Milano per chiedere se esistesse qualche aiuto finanziario, in quanto come milioni di italiani viviamo con niente o con pensioni che non bastano nemmeno arrivare alla fine del mese. Dunque? Io vivo... con una pensione di invalidità civile di 279 euro, vabbè, uno mio poi? Unico introito. Sì. Una schiera di funzionari con assessore in testa, seccati, mi spiegavano che il prossimo contributo per le persone bisognose sarebbe stato disposto una tantum in aprile. Sì. Quindi di fare una domanda per poter accedere a codesto aiuto economico annuale. Paolo, cosa ci stai raccontando? No, ma questo è una storia da approfondire. Ma una storia da approfondire cosa? Cosa storia da approfondire? Non fare il coglione, una storia è da approfondire cosa? Importante. Paolo, allora, arriviamo al punto, prego, dai, Paolo. Ti prego, arriviamo al punto, se no mi vengono, mi girano i coglioni. Una miriade di leggi che parlano, delibere, articoli che vietano... di aiutare gli italiani. Ma di che allora, parliamo? Non è vero. Cioè, non è, che vuol dire vietano di aiutare gli italiani? Sì. Paolo. Ho tutta la documentazione. Ma comunque... quale documentazione? C'ho le carte, mi sembri Taormina. Scusa, Paolo, aspetta un attimo. Tu dici, vuoi dire in sostanza che tutti i soldi vanno da un'altra parte? Che ne so, sì, assolutamente. A chi vanno? Ascolta, ai negri, agli extracomunitari, agli stranieri, a chi vanno? Mi lasci finire, ti leggo il reato. Ma qual è il reato? Quale reato? Te lo leggo. Allora, la mattina successiva mi ripresentai in assessorato con l'intento di farmi consegnare la documentazione. Vabbè, ma questo... arrivarono allora come perché sempre non me lo perché me lo devi leggere, raccontamelo tu. Diverse pattuglie di polizia urbana, ecco, mi accerchiarono e come tipo nei film americani improvvisamente mi saltarono addosso con molta violenza, prendendomi le braccia, mettendomele dietro la schiena, e mettendo un camice bianco e facendo una così punturina stretto che non passava il sangue, e piegandomi le mani fino al limite della rottura. No, è che ti hanno messo il camice bianco, questo è il punto. Secondo me ti hanno messo un camice bianco e ti hanno fatto delle punturine, non te ne sei accorto. Ma Paolo, dai. Ciao, grazie. No, aspetta, allora che è successo dopo? Oh, vabbè ragazzi, però ditemi che non ho ragione. Ma no, mi sembrava ascoltare con attenzione. Sì, mi sembrava una storia meritevole di attenzione, anzi sei veramente uno stronzo, stavi ridendo. No, ma sì, perché oggi ti vedo, stavi ridendo, te ne stavi sbattendo i coglioni, adesso ti tolgo il cellulare come a mia figlia. Stavo organizzando la giornata di domani ascoltando però questa drammatica testimonianza. Un attimo di politica, caro Parezzo. Come sai, l'assessore all'urbanistica di Roma, il signor Berdini, si è dimesso dopo un'intervista. Anzi, in realtà si è dimesso, ma il sindaco Raggi ha fatto sapere che non sa. Ha congelato le dimissioni. Le solite cose politichesi che di solito i grillini dovrebbero respingere, no? Dimissioni date, dimissioni congelate, cose che loro. No, rimproveravano sempre ai partiti. Certo. Esattamente la stessa cosa. Uguale. Uno si dimette, congeli le dimissioni. Ma che vuol dire? Cioè, vuol dire che ci deve pensare, deve far deve esserci la consultazione nella rete, deve sentire Beppe, bisogna sentire Davide Casaleggio, solito giro allora, delle chiese. Cosa è successo? Che questo Berdini, che è uno autonomo, che pensa con la sua testa, è uno che ha sempre detto, per esempio, di essere contrario allo stadio della Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ha detto in un'intervista? La sindaca è impreparata, dall'inizio si è circondata di una corte dei miracoli, e poi ancora ha detto altre cose. Ha molto... supposto una relazione sessuale tra lei e una relazione sessuale, un amore tra Romeo e la sindaca. Ha detto che intorno a lei c'è addirittura una banda. Poi naturalmente, una volta fatta la frittata, che è successo? Ha parlato di complotto, mi hanno estorto le dichiarazioni, ha sparato a zero su quello che ha registrato quel colloquio. Sentite Berdini. Ma contro, secondo me, proprio i principi deontologici di un mestiere meraviglioso. Cioè, noi stiamo abituando i giovani a andare a guardare dal buco della serratura. Questo è un poveretto, un povero disgraziato, mi dispiace. Quindi la stampa non ha fatto nessuna intervista, io non ho rilasciato nessuna intervista, sono mesi che non ne faccio. Se posso però dire, visto che appunto mi sono state messe in bocca delle cose inaudite da questo piccolo delinquente, che la Giunta Raggi in 6 mesi ha portato gli appalti pubblici in trasparenza. La capitale d'Italia finalmente è la capitale della legalità. Non immaginavo il baratro che ho trovato, quindi tutti noi siamo impreparati, quindi il fatto che gli abbia detto appunto ai miei 3 amici con cui prendevamo un piacevole momento che la Giunta Raggi è impreparata, insomma, io lo posso confermare, cioè, ma mi ci metto dentro anch'io, insomma. Vabbè ragazzi, comunque sia andata la vicenda, se uno registra la telefonata, oggi il giornalista ha detto che era consapevole, che Berdini era consapevole di quello che stava succedendo, si era presentato come giornalista. Le ha dette quelle cose, sì o no? Questo è il punto fondamentale. Certo, certo. Cioè, le ha dette sì o no? Beh sì, c'è l'audio, evidentemente. Ragazzi, dai, Nicola da Milano, dai Nicola. Sì, pronto? Dimmi Nicola, dimmi. Ciao Giuseppe, ciao Davide. A proposito di questa telefonata, appunto, ma della telefonata di Parenzo e Sgarbi a Grillo. Ma secondo te, Giuseppe, cioè Grillo è così idiota da fare una dichiarazione del genere al telefono con il rischio di essere intercettato? Appunto. Esiste nessuna. Tu ancora dici che se davvero Sgarbi ha chiamato Grillo davanti a Parenzo, cosa che Parenzo dice che non è mai accaduta, di non avere nessuna telefonata, tu dici che Grillo non avrebbe mai risposto in quel modo a Sgarbi? Ma non è così stupido, una cazzata grossa come una casa. A parte che le cazzate si possono anche fare nella vita, perché molti di noi fanno cazzate, figuriamoci se una cazzata non la può fare anche lui. Però certo, è abbastanza inverosimile che al telefono lui gli ha detto la Raggi è una depensante, una cretina assoluta, ma ce la dobbiamo tenere. Abbastanza improbabile che sia avvenuto, devo dire la verità, abbastanza improbabile. Vado, ti saluto. Ciao Nicola, ciao. Ciao, Ernesto, ciao. Roma, vai. Oh, Ernesto. Mi senti? Beh, questo è il numero uno, Ernesto. Ernesto è the number one. Dire, niente, uno scoop, eh? Uno scoop. Scoop, sentiamo lo scoop. Diceva quell'altro. I risultati dell'audience, gli ascolti di Sanremo sono taroccati. Eccolo qua. Sono stati gonfiati ad arte. Eccolo per qua. Giustificare il mare di soldi che stanno sciupando. Ma figurati, con quelle due mezze cazzette, la Conti e la De Filippo. Chi è questo professore? Chi è questo professore qua? Professore di statistica? Ma per chi è favore. Questo? Ma chi è questo qua? Cosa? Questi soldi, dateli alla Zanzara. Beh, questo va benissimo, potrebbe essere buono, sì, d'accordo. Ma non ho capito, tu ti stai dicendo secondo che me sono stati taroccati, bisognerebbe andare in fondo. Ma sai, che vuol dire taroccati? Che vuol dire taroccati? Gonfiati, secondo ma me. Ma gonfiati, si può discutere a lungo sui dati. Ci sono questi, adesso ci teniamo questi. Che bisogna fare? Andrebbe controllato, perché non si prende per i fondelli milioni di persone. Guardi, che ha fatto sul fatto che milioni di persone abbiano seguito la prima serata, sul fatto 13, 14, 12, sul fatto che siano milioni di persone a guardare Sanremo, non mi pare neanche una cosa così clamorosa. Cioè, mi pare ma ovvio. Per favore, una cosa anacronistica. Siamo proprio alla gerontocrazia dei programmi. Ma che scherziamo? Ma per favore, è stato taroccato. Ma cosa è stato taroccato? Non capisco cosa. L'audience che abbiamo visto sto programma più di 11 milioni di persone, quanti sono? Vabbè, hai da dire solo questo, Ernesto? Hai da sì, dire solo questo. Siamo stati presi per i fondelli, volevo darvi atto e vi volevo chiedere di agire e fare dei controlli. Parenzo che controllo? Andare a controllare. Ma Parenzo, che ne pensi di Parenzo, Ernesto? Che mi sono dimenticato. Ma Parenzo è un utile idiota, però sì, lui piacere, Parenzo. Con le sue esperienze può andare a scavare da qualche parte. Ma perché un utile idiota che ha fatto? Scusa, non ho capito. Ma perché si dà delle arie e non vale niente. Sì, dai, lo no, tu. Infatti lo tieni lì a mezzo servizio per a farlo mezzo campare servizio. Un po' perché tiene famiglia. Ma no, momento, se ha a mezzo bisogno di vivere. Aspetta un attimo, se ha bisogno di vivere. Se a mezzo servizio, io allora stacco qui, siamo a metà trasmissione, a mezzo lo tieni lì come Pungible. È una lei sta bene a casa, è tutto a posto, si ha una vita felice lei con sua moglie e i suoi figli. Comunque, guardate, se andate a controllare i dati. Andiamo allora, no, ma è una cosa lei ha detto una cosa molto intelligente, sa? Danno sì. Questi apparecchietti che a me non sì, hanno mai dato. No, a lei non l'ho mai dato, quindi vuol dire che siccome non l'ha dato a lei, vuol dire che allora non esiste l'audio. Sì, vabbè, comunque, ma posso dire non una... È anche un tema interessantissimo che lei sta ponendo oggi. È un mediocre spettacolo, ma il suo parere poi è autorevolissimo. Quindi del medioevo televisivo. Del medioevo televisivo, certo. In questo uno in parte anche ha parlato Aldo Grasso. Ciao Ernesto, ma pensa a te. Che mondo sarebbe senza la Zanzara? La Zanzara. Allora è con noi uno dei grandi nemici del Festival di Sanremo, caro Parenzo, Mario Adinolfi. Mario, come stai? Là, non c'è male. Ecco. Mi sembra l'unico nemico, non mi pare che ci siano grandi altri nemici. Beh, insomma, festival. A me per esempio non me ne frega nulla, non vedo un minuto, vedrò. Niente, nulla, zero. Come al solito. No, ma non no, è che a me piace molto, mi diverte, belle musiche, belle canzonette, bella messa in scena, vabbè, ma grande spettacolo. Ma non mi interessa, sono 5 giorni, tutto quello che ricordate questa cosa qua, tutto quello che accade a Sanremo vale solo per questi 5 giorni. Vabbè, ma come poi, tutta la televisione. Certo, poi non però, succede più nulla. Ma come tutti, la televisione in generale. Mica la picchia. Ma no, ma tutti se ne dimenticano, anche delle polemiche dell'anno scorso, anche delle cose che nascono. Beh, restano che... le canzoni, restano le belle canzoni che canticchiamo per tutto ogni l'anno. Tanto qualcuno eccetera, ma insomma quanti gay ci sono a Sanremo, scusami Mario, questo chi se ne frega, ma no, hanno detto non io, D'Agostì ha detto che per trovare un etero bisogna cercare in seconda fila Malgioglio, ho letto una cosa del genere. Ma sarà mica un problema questo. Tu dici era una buona domanda, una buona battuta mi pare. Ma è un secondo te è piano di froci, diciamo la verità, cioè nel senso che ormai non è un problema, come direbbe Parenzo, non è un problema, cioè certo, la fanno da padroni la popolazione diciamo così, come è distribuita in Italia, 98% a 2%, c'è un deciso squilibrio sul palco dell'Ariston. Però diciamo scusami, così, vero, molti dicono che in realtà non è 98% e 2%, cioè 10%... Sarà 95,5%. Ma che senso ha questa discussione? Ma di Oscar Wilde, voglio dire, Oscar Wilde, che è stato un grande scrittore e che come tu sai... Ricky Martin, era Oscar Wilde, certo. Oggi dai tempi, certo, eh? Perché vogliamo discutere dei libri di Oscar Wilde o della sessualità di Oscar Wilde? Se vivessimo nella Repubblica Teocratica di Adinolfi, dovremmo mettere a rogo il ritratto di Dorian Gray, ad esempio, una follia assoluta, non no? È vero, dai. Non è assolutamente no, vero. Ma omofobo, non omofobo com'è? No, omofobo com'è? Forse. Non ha mai detto più Oscar Wilde, come direbbe, meno Adinolfi, anziché più Natalia, meno Parenzo. Più Oscar Wilde, meno Adinolfi. No, ma non c'è nessuno. Ti ricordo che però, molti artisti, molti scrittori, ma lui non sta con te, sono questa cosa non l'ho mai detto. Allora qual è la polemica? No, lui dice una cosa, lui dice una cosa che ci sono troppi ospiti che noi paghiamo che sono, come dire, dei simboli dell'ideologia. Ma che dite? Dell'ideologia. Ma quello è quello che dice lui. La testimonia del Ludo in affitto, questo è quello. Ma cosa vuol dire? Esatto. Sono lì per questo cantare, per la loro arte, non per quel che fanno nella vita privata. Ma solo quelli lì, insomma. Ma come funziona? Ma poi ogni anno si seleziona Nicole Kidman, Elton John, Tiziano Ferro, Ricky Martin, Carmen Consoli, tutti, diciamo, testimonial della maternità surrogata o dei figli. Ma tu dici che lo fanno apposta? Perché? Ma io penso che ci sia una logica, che sia proprio casuale, mi sembra strano. E chi è il grande burattinaio di questo? Chi è il chi è? Sicuramente c'è una lobby che nel mondo dello spettacolo governa queste cose. Queste cioè, tu dici gente. Che vuole, che riesce ad ottenere la presenza di questi qua. Ma io dico, immaginata come casuale. Ma io dico, ma un omone intelligente. Un omone intelligente. Perché omone? Perché gli dai dell'omone? Omone, grosso, non ho detto non omofobo, ho detto omone. Ma perché gli dai dell'omone? Perché è un omone intelligente, come tanto grosso quanto intelligente. Questo è fuori di dubbio. Dialetticamente preparato, di buone letture, come Adinolfi, c'è tanto ha una cultura che la butta nel cesso per fare l'elenco di cosa fanno sotto le coperte dei grandi artisti professionali italiani. No, sotto le coperte non ho detto proprio niente, ho detto cosa hanno fatto per, diciamo così, scegliersi, acquistare dei bambini che ma mica sono stati invitati per quello. Lui dice di sì. Sono stati invitati per la loro arte. Nelle ultime due edizioni io la casualità non riesco a leggerla come casualità. Ma vedi che è diventato complottista anche lui. Cioè è una cosa incredibile. Complottista anche a Adinolfi. Beh, stai dicendo però sì, se questo stai dicendo. Un complotto. Però stai dicendo questo, Mario, che dietro c'è una regia delle lobby gay che impongono certe persone. Con precisione, ed è, credo, testimoniata una presenza della lobby LGBT che riesce a imporre certi ospiti, precisamente quelli, che fanno da testimonial ad alcuni stili di vita, chiamavoli fra virgolette, familiari, che io considero estremamente pericolosi, perché portatrici di una visione antropologica che trasforma le persone chi in cose. Chi ascolta Martins? Che io combatto. Va bene, d'accordo. Chi ascolta Tiziano Ferro? Ascolta la musica di Tiziano Ferro. Ma non ancora, è che si ma che musica ascolta? Ieri quando cantava Tenco manco sapeva cosa cantava. Su, ma l'avete visto come sta come cantava? Ma tu hai detto che sudava come un pazzo là, sul grasso, come un coso che sudava. No, che quella era Ricky Martin, tra l'altro. Ah, Ricky Martin, vabbè, ho capito. Però tu che metti a parlare delle fattezze fisiche di Ricky Martin. Ma ho parlato delle fattezze fisiche, ho fatto notare che cantavamo roba di 25 anni fa e che il signore in questione, che abbiamo profumatamente pagato, è uno che si muoveva sul posto con, diciamo, grande dispendio di sudore, raccontando no, hai detto che suda come un maiale, detto una cosa del genere. Ma come, la faccio sentita, hai detto tu? Sì, credo di aver detto una cosa del genere. Ah, l'ho ecco. Detto, l'ho ammesso, no? Vabbè, detto comunque questo, cioè non mi sembra che fossero queste le osservazioni che ponevo. Pongo la questione perché sono selezionati proprio loro. Allora tu devi arrivare alla conclusione di questa cosa, che secondo te c'è a Sanremo una propaganda? Ma io l'ho dichiarato, Giuseppe. No, una propaganda. Allora è una lobby, una istigazione a delinquere. Allora è un'istigazione a delinquere. Non è un'istigazione a delinquere, sono quelli che hanno fatto mettere i tastini al coppaleno per tutta la durata dello scorso festival. Se io vado in Rai con la maglietta marcata Ralph Lauren, mi prendono un adesivo nero e me lo mettono sopra il marchietto, d'accordo? L'anno scorso i funzionari l'anno scorso che si uscisse con il braccialetto arcobaleno perché si era sotto. Vabbè, quest'anno ci propongo Ricky Martin, Tiziano Ferro, è tutto casuale? Ma non lo so, chi è il puparo? Non chi esiste, è il puparo? Il puparo, cioè, è sicuramente una presenza di lobby, è presente. Ed è evidente, perché tu in Rai non esci in 20 al Festival di Sanremo col nastino arcobaleno. Allora Ricky Martin ha detto oggi che vuole in una radio italiana un altro paio di ragazzini. vuole un'altra figlia, vuole una figlia. Con i soldi, no, con i soldi che abbiamo pagato noi, no, ce n'ha abbastanza di soldi, signore. Questo lo aggiungo io, evidentemente, vabbè, non lo può aver detto lui, ma i soldi li abbiamo dati noi e ci si comprerà un bambino. Vabbè, ma quello c'ha i soldi che gli escono dal culo, scusa. C'ha i soldi che gli escono dal culo, tanto per usare, come dire, una frase così. Vabbè, così gli escono dal culo i soldi a Ricky Martin. Gli escono dal culo, oltre ad altre cose gli esce pure quello. Non sono io, anche la legge italiana, che prevede che quella pratica sia illegale e anche pubblica. E dunque, appunto, e dunque? Un milione di euro di multa. Io penso che questa roba non dovrebbe essere pubblicizzata in Italia. E dunque, Conti sta commettendo un'incitazione a un reato? Secondo me è un reato. Io sono e dunque, Conti commette, istiga un reato? A commettere un reato? Non è Carlo Conti, secondo me Carlo Conti subisce logiche della dirigenza Rai. Non credo sia lui, perché lui lo conosco come una persona abbastanza ragionevole. E dunque? Subisce delle logiche. Sì, ma è un'istigazione a delinquere, questo istiga a commettere un reato, cioè a comprarsi un figlio nella tua ottica. Beh, anche Conti. Ludo in affitti, dai un reato. E dunque Conti istiga a commettere un reato, che ne so. Vabbè, poi fa sto titolo. La Rai. La Rai 1, ecco, vabbè, cosa hai fatto? Rai 1, va bene, a commettere un reato, che è un reato. Ok, d'accordo. Fermo là che c'è la pubblicità. Dove? C'è la pubblicità. Ma dove vuoi che vada? Ma c'è la pubblicità, ma perché? Magari si deve spostare. Ma non deve. Siete goduria. La Zanzara. L'editto bulgaro di Cruciani a Mauro da Mantova. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Comunque ragazzi, prima di riprendere con Adinolfi, con Mario Adinolfi, uno dei leader del popolo della famiglia, caro David, una persona che è convinta di quello che dice, fa le sue battaglie, molti lo considerano un omofobo, io non lo considero affatto un omofobo, anche perché considero l'omofobia una cosa praticamente inesistente. Sicuramente è ossessionato dall'omosessualità. Ma non è affatto ossessionato. Devo dirti la verità, alcune posizioni delle associazioni gay mi danno fastidio. Mi danno fastidio perché le considero, cioè mettono bocca ormai su qualsiasi cosa. Adesso se la sono presa recentemente contro una campagna di Media World su una roba, non mi ricordo cosa, omofobi Media World, perché hanno fatto una battaglia, perché hanno fatto un manifesto sul fidanzato di sesso diverso. Vabbè, in ogni gruppo poi ci sono sempre quelli più scatenati e quelli più ragionevoli, quindi non mi stupisce. Però di martedì, ragazzi miei, ormai siamo a livello zanzaresco, se non di più, urina e sperma nella stanza d'albergo, ti giuro, fanno i servizi ormai per scoprire, per raccontarci cose che, ma lo sappiamo già, le Iene lo facevano 15 anni fa, le Iene lo facevano 15 anni fa, ripetita urina e sperma nella stanza, secondo te in questo studio, caro Davide, che cosa c'è? Sì, questo studio c'è il profumo di Barisoli, perché qui è la sua... dovremmo fare un'indagine su questo studio. Io non cosa vengo trovano? Mai qua a Milano, cosa trovano, ma essendo te? Lo studio dal quale tu trasmetti, non oso pensare alle porcherie potrebbero trovare. Sì, sicuro. Cioè, se prendiamo un gelsomino, quello di Taormina, no? Bravissimo, l'ispettore gelsomino, come no? Che viene qui con l'umido, cosa trova? Porcherie, se trova pezzi di donna, DNA, no, di donne, F-Ball seduta su quella sedia lì, e qui si spogliò. Negli studi di Radio 24 si spogliò. Dunque, cosa trovano? Porcherie, liquidi, seminati. Urina, sicuro, secondo te trovano? Tracce di urina le trovano? Ma quello sicuro, perché anche qui faranno la pipì dentro questo. Ma no, ma dentro studio no. Ma quando i maschietti vanno in bagno, persone lasciano delle tracce. Persone sporcaccione come trovano. Te, siccome tu non ti lavi mai le mani, dici, posso lasciare delle tracce? Puoi lasciare sicuramente delle tracce di urina qui. Anche sperma. E mi risulta, ad esempio, non vorrei fare che anche Barisoni invece, quando fa la pipì, mi risulta che si lava sempre le mani. Ad esempio, non lo so, questo non lo so. A me risulta questo. A me. Vabbè ragazzi, allora siamo con Mario Adinolfi. Mario, ti voglio chiedere una cosa. Su Sanremo abbiamo già dato, basta, su Sanremo non ne posso più. Il blocco dei siti porno, ma ti pare possibile che uno voglia bloccare i siti porno, amico mio? È pieno di gente che si fa le seghe davanti ai siti porno, lasciamogli fare le seghe davanti ai siti porno. Ho citato uno studio di una sessuologa belga, finalmente uscita in Italia, che si titola Una gioventù sessualmente liberata. Sì, sì, quasi, ho ricevuto anche il libro. Sì? Si chiama Teresa Argo. Che ha scritto un bellissimo libro su cui in Francia si è discusso tanto, intorno ai modelli sessuali che una volta venivano imposti dalle autorità religiose e oggi vengono invece imposti dall'industria del porno. Ma nessuno impone. E questa cosa insiste incide in maniera determinante sulla formazione della sessualità dei bambini da 10 anni. Ma scusa, ma questo succede anche per i giochi, succede anche per i videogiochi, scusami, no, i videogiochi, uno può diventare dipendente dei videogiochi. Noi abbiamo avuto una formazione sessuale, che noi siamo più o meno della stessa generazione, che ti ricordi bene, sì, ha a che fare col mistero, il problema, comprare il giornaletto porno era impensabile perché ci vergognavamo ad andare dalle dall'edicolante. Però alla fine oggi, riuscivamo. A 10 anni vai su Facebook, vai su Instagram. Vabbè, ma questo d'accordo è un problema. E questa cosa forma sessualmente a un modello, sì, però... che è un modello che ti ottunde, che ti costringe a essere il maschio performante o la donna, secondo me. Scusami, Mario, allora che bisogna fare? La soluzione qual è? Oscurare i siti porno? Scusami se te lo dico. La soluzione è proposta da Teresa Argò, su cui si è discusso. Vabbè, ma la proposta tua qual è? È il blocco dei siti porno da parte dei... Ma non si può fare, ma non si può, non puoi dire... Si può fare benissimo, se tu adesso cerchi di accedere ai siti del gioco d'azzardo internazionale, in questo momento... Ma proprio tu lo dici, proprio tu lo dici che giochi a poker, scusami. Sono bloccati dallo Stato, lo Stato italiano... Ma scusa, proprio tu lo dici che giochi a poker, che può diventare una dipendenza. Se tu mi dici ma no, ma è possibile anche, d'accordo, in Cina, in Cina lo fanno... No, in Italia, in questo momento in Italia... Ma quella è un'altra cosa, però... ai siti dei giochi online internazionali non potrai accedere, scusami, per decisione normativa dello Stato italiano. Ma allora io voglio dire una cosa, scusa. Con lo stesso metodo io credo che quella è stata una valutazione sulla salute pubblica. Cioè, secondo te è possibile? Io credo che una valutazione sulla salute pubblica, io si giovani. La ludopatia, però scusami, la cosa legata al gioco è diversa. Ma lui dice che ci può essere una dipendenza anche nel sesso, comunque vabbè, cambia quello, quello in ogni cosa. Figli, ragazzi, questa formazione si dunque tu bloccheresti i siti porno? Io bloccherei, io penso. Ma come si fa? Io mi voglio fare una sega davanti a un sito porno, vabbè, caro Mario, fammi fare una sega. Ma farai come te la sei fatta da ragazzo senza i siti porno? Cioè, guarda che non è roba incredibile, guarda, è incredibile. L'hai fatto anche senza i siti porno. Ma ho capito, ma come si fa a bloccare i siti porno? Lo dai, facevi senza i siti porno. E vabbè, d'accordo, ho capito. No, su una cosa adesso non voglio seguire la strada. Tua figlia, ragionaci. No, ecco, io su questo per cazzi tuoi. Certo. Ma tutela la sessualità di tua non voglio seguire fino in fondo. In parte ha ragione Adinolfi, su questo voglio dirlo, perché ma effettivamente avendo anch'io una figlia libertà avendo anch'io una figlia di 10 anni, alle volte ho paura che navigando sull'iPad ti tieni la paura. Insomma, pone un problema giusto, ma bloccare dai. I siti porno no, vuole bloccare sei d'accordo nel bloccare i siti porno? Ci sto pensando, fino a prima fino a poco fa ero, però ragionando, perché vedi che non sono con le cioè tu vorresti bloccare i siti porno? No, però lui pone una questione vera, cioè che siccome questo ma lo fanno in Corea, in Cina lo fanno. Ma che vuol dire? Cosa sei, in Grillo? In paesi comunisti, in paesi dittatoriali. Lo fanno in Corea, lo fanno. Ma che sei, ma Grillo? Dai, sei stato Grillo, ma sei diventato. Dai. La rete che è un'autostrada va regolata ed effettivamente questo accesso. Scusa, hai visto mai un film porno? Queste... No, tu, ma Mario, l'avrei visto, no? Ma sicuro l'avrei visto, ma non è vero. Sì, sicuramente. No, da quanto tempo è che non vedi un film porno? Sarà 15 anni, credo. È 15 anni che non ti fai una sega davanti a un film porno? Ma no, quello ma assolutamente, ma non ne ho bisogno, ho avuto, come dire, compagnia. No, non mi direi che consideri la masturbazione un peccato? Ma no, vabbè, questo è un peccato, ma comunque fare l'amore è più bello. Fare l'amore sia una cosa più bella. Ho capito, ma la masturbazione è un peccato o no? Per il cattolico sì. Io non faccio il prete. No, ma per te la chiesa cattolica è un peccato. E dunque per te è un peccato, cioè uno che si masturba disperde il seme, è un peccato. Un cristiano pensa che la masturbazione sia... No, tu Adinolfi penso, non un cristiano. Io che sono un cristiano penso che la masturbazione sia un peccato, certo. E come la De Mari consideri il sesso anale un altro peccato? I cattolici pensano questo. No, ma che c'entra? Non è che è una banda, non è che è un blocco unito i cattolici. Ma noi aderiamo a quella religione, capisci? Cioè noi aderiamo e crediamo in quei principi. Dunque non tu non hai cosa... mai fatto sesso anale? Vabbè, io ho fatto tanti peccati in vita mia, Giuseppe. Tanti ma peccati. Quello no. Restano peccati. Capito? Restano peccati. È un peccato il sesso anale. Non mi sono mai masturbato. Allora. Mi sono masturbato. Beh, certo. Ma questo resta un peccato. Dunque il sesso anale è un peccato, vabbè, ragazzi, è un peccato. E produce i danni che dice la De Mari, i danni irreversibili che produce la De Mari. Produce dice i danni fisici che ti ha raccontato Silvana De Mari con dovizia di particolari scientifici, non credo che siano contestabili quelli. Poi ognuno dipende, può fare dai, come tutti gli accessi, dai. Poi ognuno può fare le sue scelte. Scusa, un'altra cosa, poi ti lascio. I preti adesso stanno scoppiando altri casi, come preti sempre, pedofili, preti pedofili. Allora, io dico una cosa, è giusto o no che la Chiesa non denuncia la magistratura? Perché questa è una cosa gravissima. Questa è una vergogna. È una vergogna, caro Mario. C'è la Chiesa, ragione. Un secondo dopo c'è un vescovo, un prete, un cardinale, un arcivescovo. Ma questo è stato deciso fin dai tempi di Benedetto XVI, bisogna denunciare la magistratura, questa è una cosa scelta. Però decisa, quel vescovo, non da, ho capito, ma quello là a Bari, quel vescovo non ha a Bari che ha lasciato, anzi ha spostato il prete sospeso a Divini, se l'aveva messo. Se è vero, io adesso non conosco la vicenda, ma se è ma vero può, che lo venite non che l'ha spostato perché doveva proteggerlo, ha sbagliato, è poco da dire. No, ma non l'ha denunciato proprio, non l'ha denunciato di Benedetto XVI. Ecco, ma la Chiesa dovrebbe cacciare anche quel vescovo che anziché rimuovere il prete lo ha spostato ad altro incarico. La Chiesa dovrebbe cacciare quel vescovo. Ma perché guardate che la Chiesa ha rimosso e sospeso a Divinis, rimosso vescovi, migliaia di sacerdoti. Vabbè, con molta calma. Non basta sospendere, bisogna denunciare alla magistratura. Scusami. Senti una cosa, non ho capito, ma i preti devono scopare, secondo te? Possono scopare? No. No. No. Tu sei per il celibato, no. Ma scusa, ma se uno c'ha il pisello, come fanno a scopare? Ma è impossibile, è innaturale. Ma ha scelto di fare il prete, di dedicarsi alla Chiesa di Cristo, la sua sposa, quindi la scelta è lì. Ma il punto è quello, quel Don Contin là, quel Don Contin, gli piaceva la figa, voleva scopare. Se e allora non doveva fare il prete. Appunto, non doveva fare il prete. Non doveva fare il prete. Ma no, magari era un buon prete anche se scopava. No. Anche scopando, pensa ad esempio al caso del povero Andrew Mercou, a cui piace quell'azienda, ma non può mai farlo. Quindi vedi come Mercou non pratica. Lo so. Ma che cosa? Scusa, che c'è? Non fa l'amore. Che c'è? No, ma non fa l'amore. Mercou, ma che ne sai? Cioè, pensa com'è ingiusto il mondo, no? Mercou che non fa il prete, ma vorrebbe fare l'amore. Ma che ne sai? Non lo perché gli fai questa cattiva pubblicità? Scusa, ma sei una cosa pazzesca. Ciao, Mario. Ciao. Cruciani, ma chi cazzo è il tuo parrucchiere? La Zanzara. Allora ragazzi, a proposito della vicenda Grillo, Sgarbi, eccetera, eccetera, oggi a Mediaset scontro tra Sgarbi e Andrew Mercou, l'imitatore di Grillo. Noi abbiamo subito detto che quella telefonata là che abbiamo fatto a Sgarbi era chiaramente uno scherzo, ce l'abbiamo detto subito, immediatamente. Comunque, sentiamo. Vittorio! Sì? Guarda che io sono lucidissimo, io sono la persona più lucida. Mi fa piacere. E tu invece sei uno stalker. Io ieri ti ho telefonato e ti ho detto delle cose che ormai sanno tutti, perché poi hai fatto un'altra stronzata. Hai messo tutto su Facebook. Io ti ho chiesto una cosa e tu vai avanti così. Lo capisci che così finiamo in tribunale? Non è peccato? Sì, è peccato. Sono felice di andare in tribunale. È il modo migliore per perdere tempo, così ti distrai dalla politica, della quale hai dato la prova più grottesca che potevi dare con la Raggi, quindi siamo a posto. Vittorio, ma scusami, ma perché cavolo tu ti inventi una telefonata che non c'è? Poi io ti parlo, ieri ci siamo sentiti, e tu cosa fai? Non sapremo mai più qual è il Grillo buono, perché a forza di proliferare con i falsi come questo siamo perfetti. Però da parte io ricevo delle telefonate. Io non ho mai telefonato a Grillo, in realtà. La telefonata la fece Parenzo la prima volta, si vede che anche la prima volta ero l'imitatore, però con un pensiero perfettamente corrispondente a quello che uno presume di Grillo, quindi va benissimo. Cioè bisogna finirla, io lo so, a te piace lo spettacolo, usi termini, depensante, tutte queste cose, ma lo capisci che sei da fascia protetta, spaventi i bambini, cioè la faccia di uno che sta su YouPorn da mattina a sera. Vittorio, fai qualcosa, lo dico per te. Ti ringrazio, la rete ti risucchierà, ti cancella. Ecco, sì, Vittorio Sgarbi, abbiamo inquadrato Andrew Mercou, noto imitatore, che è qui allo studio di Cologno con noi, che ringrazio, ben trovato. Ciao Vittorio, saluto tutti. Bravissimo. Io non voglio sentire il traffico, io sono il traffico. La Zanzara. Che c'è, David? Dai. Allora, no, scusami, vado un attimo in bagno e poi devo fare la pipì. Un secondo, eh. Ho bevuto tanta acqua. E sei scemo? Sono le 8 e un quarto. Ho capito, c'è una regola che uno alle 8 e un quarto non può fare la pipì. Non ho capito. Dobbiamo chiamare i sindacati. Ma devo chiamare Antinori. Facciamola al telefono, devo fare la pipì. Che cosa vuoi? Ma che cazzo fai? Te ne stai andando. Ma si può fare la pipì in questa radio o no? Chiamo i sindacati, chiamo Landini. Allora ragazzi, devo chiamare. Chiamate al telefono un attimo David, dai. Chiamate al telefono David. Roba incredibile, dai. Allora, Antinori dovrebbe stare alla clinica Mater Dei di Roma, l'abbiamo chiamato l'altro giorno, clinica Mater Dei di Roma, ricoverato per una cosa coronarica, non so che cazzo è successo, dopo la condanna a 3 anni e mezzo per, se non sbaglio, per estorsione a una coppia che deve andare a fare l'utero in affitto. Poi c'è anche l'altro processo di Milano, quello degli ovuli rubati, degli ovuli sottratti, ovviamente tutte cose ancora da decidere, da giudicare, alla infermiera spagnola. In ospedale, chiamiamo al telefono David e chiamiamo Antinori, dai. Buonasera, sono Roberta. Sì, salve, buonasera. Mi passa la stanza del professor Antinori, per favore? Un attimo, grazie. Prego. La clinica Mater Dei. Carissima, carissima clinica Mater Dei a Roma, dove è ricoverato il professor Antinori. Lui dice per le conseguenze dei processi. Prof. Severino? Allora, che stai a dire? Hanno messo in atto, ascolta, da tanti tempi c'è un'associazione di lingue di stampo magistrale. Sì. Di alcuni magistrati. Che vuol dire? Ci sono alcuni magistrati uniti che per me è come un'associazione di lingue, non è prevista al codice, ma sì. Quando alcuni magistrati, alcuni si associano, sì. Sì. La Ripamonti, sì. La sua collega, sì. Ad Agrilefano, sì. Mi si aiutano, sì. Dentro su un castello, sì. E si dimostra con i fatti un falso assoluto. Ma che ti è successo? Il codice deve prevedere, cioè chi la magistratura si associa indirettamente o direttamente con altri, cioè contro di te, contro di te per esempio, cioè tu poteva fare anche contro di te. Sì, ho capito, ma se in questo momento Milano dice Cruciano bisogna arrestarlo perché io ho visto che violentava una bambina. Beh, adesso, tu dici potrebbero sono un trita tutto, sono una No, però aspetta, facciamo ordine. Allora, l'ordine è questo. L'hanno condannato a 3 anni. Non ho parlato, attacco, ciao. No, aspetta. Ti attacco, basta. Non so. Severi, aspetta. Mi fai parlare o non attacco? Dai, vai, parla, allora, però fammi fare domande, no? Il 17 agosto. Sì, l'associazione riunita, appunto, ha detto. Sì. Non c'è rapina, non c'è sequestro, non c'è sulle delinquere e non c'è tipo di sequestro di persone di altri. Ma sul processo di Roma stai parlando, no? No, di Milano. Roma è tutto assolto tutto . E ha detto sì, tutto assolto, però forse questa donna che aveva un figlio ha degli assegni, forse non li poteva pagare, ma scusa, è stata operata, chi ha chiesto, poi dico. Beh, 3 anni ti hanno dato, 3 anni e mezzo. È una mostruosità giuridica, cioè io vengo 3 anni e mezzo, ascolto, di un'accusa di estorsione a una coppia che è venuta da me a febbraio, doveva pagare 20.000 euro, non ha pagato niente, è venuto in Spagna, è stato operato tutti quanti, ha preso l'aereo, ha preso l'albergo, non ha mai pagato niente, ha fatto gli assegni, dopo 6 mesi, per non pagare, fa, dice, sai, a me è venuta la botta, che te l'ho fatto vedere io? È una palese condanna fatta da lo staff alla magistratura. Ma sto giudice, il ministero di Pignatone ha chiesto la soluzione. E appunto, allora che c'ha in testa questa cosa? C'ha in testa di dichiarare sui giornali per esapparire come tutti gli altri, un'altra tira carne questo qua. Quell'articolo. Ma è vero che c'hai un tatuaggio sul petto? C'ho ancora a destra, io sono naturalmente situs viscerum inversus. Sono nato col cuore a destra e vicino. E ce l'hai tatuato sul petto questa informazione? In caso di incidente mi posso morire, mi è successo già. Te lo sei tatuato bello sul petto? Devi tatuare, il medico me l'ha ordinato. Addirittura? Se tu c'hai il cuore a destra, devi andare a mettere la sinistra, che cosa fai? Quando tu dici la verità, ti derivano qui. Poi c'è i Gentiloni, i Boscoloni, i Renzi, gente che non fa niente, mi lascia i magistrati. Qui bisogna fare una legge che dice che i magistrati, i PM, devono avere un limite. Adesso non si può arrestare uno di 70 anni, lo dice la Ormina, è legale se sono 71 anni malato, no? Fanno i Torquemada con i giustizialisti, come ha fatto l'altro giorno, incontro alla barchetta quelle Torquemada di Travaglio, dico, scusa, lei non è un giustizialista. Lei è un giustizialista. Se non parla è un codardo, lo vedi un codardo? Mi faccio, la vedo un po' nervosa, dico, ma da lei riesci la scena del dottor Travaglio, vado un attimo, non c'è mai andato lei si è stata della scrivania a scrivere, a via Cicerone. E come ha risposto? Ha risposto, lui mi ha mandato tutto il fascino. sei codardo, non hai scritto niente. Un codardo. Codardo, caro, guarda, tu sei un codardo, sei un uomo soltanto di non ti conosci, ti prendi. Io sono 79, ho avuto 50.000 email, ho avuto la prensa di San Paolo. Ma qua, scusami, se vedi... Scusami. L'uomo della V, Antinori, è stato per me. Beh, grandissimo. Scusami un attimo, Severino, ma quanto si paga al giorno lì alla Mater Dei? Un sacco di soldi? Io ci lavoro da tanti anni qui. Tanto tu sei pieno dei soldi, che te frega? No, io, un momento, patrimonio enorme. I magistrati l'hanno pagato. No. A me è venuto questa notizia stress dopo il magistrato, quindi la richiesta di 20 milioni sono andate al governo italiano, a quello di Renzi e questo di questo Gentiloni. Ma che c'entra Gentiloni? Scusa, ma che c'entra Gentiloni? Gentiloni, comanda Gentiloni, ti rendi conto? Se c'hai Mattarella che sono morto in piedi, scusa. Tutti cattolici, molto cattolici. Tutti cattolici, tu se mi ricordo che stavo cenando con lui, adesso c'è qualcuno, oggi qui sono pieni di giornalisti. Dico, guarda, no, io con voi non parlo con Cruciani, sperando che lui, adesso Cruciani, tu questa sì. intervista, sì. nessuno, mi ha chiamato adesso un altro giornale, non mi ricordo chi, sotto c'è il direttore, sì. io parlo solo con te, bene. E tu gli dici a Feltri che pure lui è un pezzo codardo, no, vigliacco, ma non sai che me mi ha mandato il suo assistente in Russia, non ho fatto niente, è rimasto pure grave. Ma chi? Vittorio Feltri, è un gà, l'unico vero coraggioso, si chiama Vittorio Sgarbi. Ma non ho capito, che ti ha mandato Feltri, non ho capito. Adesso non li tiro più, i fottati erano lui. Ma non ho capito, chi ti ha mandato in Russia? Chi ti ha mandato in Russia? Lui mi ha mandato un suo amico, fratello del corpo, sono un bambino in Russia, 20 anni fa. Sì, ma andiamo al processo di Milano. Non ha mai detto una parola, forse è un codardo, digli che gli sputo in faccia, guarda. Io lo dico, gli sputo in faccia, va bene, ma... No, gli sputo in faccia perché un codardo parla sempre di difendere, ma quando mai difesa a me lui? Senti, ma al processo di Milano una ginecologa ha detto che ci fu una violenza nei confronti della... No, è tutto, ascolta, la ginecologa è una nota lesbica. Come una nota lesbica? Vabbè, ma no, questa qua ha fatto una... è diventata direttore della clinica a Milano. Sì. Questa nota lesbica. Mangiagalli. Sì. Non c'è niente, non lo so, non sì. rispondo. Che non sa fare niente. Scusa, ma c'è... Allora? Che ha fatto? Oh. Ciao. Severi. Io non ho chiamato mai. No, stammi a sentire. Professore! No, stammi a sentire un secondo dopo, sta parlando con qualcuno. Gli stanno a dire che non deve parlare, sai, queste cose qua. No, ma io gli ho detto... Severino, mi hanno ammazzato. Ti hanno ammazzato i magistrati allora? Se io, guarda, si dà il cazzo. Ma diciamo delle parole forti contro questi allora, magistrati. Diciamo che io ho avuto ricarcelato, mancato al secondario, ho avuto ripetuto crisi cardiaca, sempre. Poi sì. dopodiché vengo a fare la polmonite. Io ho fatto la polmonite, come dice qui il professor Fianelli, ci puoi parlare? Anzi, sì, no, non ci parla adesso. È lo stress. Di tutto, di indebolire il sistema immunitario e la polmonite può venire. E quanti soldi hai chiesto di risarcimento? A chi? Allo Stato italiano? 20 milioni? 22 milioni. 22 milioni, sì, una cosa da roba. Scusa. Comunque, lì la Gusterman ha detto che tu hai fatto. Ma la Gusterman è una nota persona che non sa fare niente, è diventata direttrice della Mangiagalli. Dice che c'è stata leccando il culo ai comunisti. Segni di violenza. È gelosa la mia posizione. Segni di violenza sulla donna. 2 anni fa mi impari qualcosa. Gli mandai a fare un parto. Un direttore generale della Fininvest. Che è successo? Lo fece pure male. Ma no. Fece parte la mia segretaria e stavano sbagliando. Questo, fece morire. Fece morire 7 mesi fa una gemellare. Ma no, ma come fece morire? Ma l'hai letto, lo leggi. Ma non lo gemellare. So. C'è un strisciante gruppo di potere. Sì. Molto più grave che di t'hanno altri. Fatto fuori. Ma l'ha fatto fuori me anche altri, se c'hai idea, anche te li fanno fuori. Tu stai bruciando. Scusa, questa spagnola qua, ma questa infermiera spagnola. Non è spagnola, è una puttana burara, sapete. Sì, ho capito, questa qua. Dicono che hai spentato. Ma no, ma questo è venuto, no, questo è organizzato a livello internazionale un Donald Trump per cercare di rimanere un po' di ovuli, ma se vuole limitare questo. Poi l'hanno preso e hanno detto, sai che dito? Denunciano, così lo facciamo fuori. Ah, i carabinieri ti hanno voluto fare fuori? No, ma tu hai detto che era stata mandata dall'ISIS questa qua? No, questo parlava in arabo e mi diceva davanti alla clinica c'era il dottore ebraico, diceva in arabo, maledetti questi ebrei, e allora? Non l'avevo capito, non so chi era, ma sicuramente parla sempre bene dell'ISIS. Mo, parlava bene dell'ISIS addirittura? Ma è una nota, conoscendo il mondo arabo, parlava sempre bene dell'ISIS, forse era un esperiente, ma comunque è quel tipo di donna lì. Tu hai detto una puttana, tu l'hai detto. È una puttana. chiaro, insomma, scusa, una meretrice. Ma perché una meretrice? Una meretrice. Sì, però Severino, basta, dai, questa puttana, quella di prima, com'era, la Custerman, lesbica. Ora, quello che dici, la responsabilità è tua, io mi dissocio. Già, abbiamo tanti casini, pure queste robe qui, dai. Della PM, prima di procedere, a verificare. Vabbè. Se è vero che fate la violenza della guerra Galli non esiste, c'era soltanto un po' di soffusione sulla pancia, niente, quella hanno falsato il certificato, la guerra Galli per mandarmi dentro. Era soltanto un certificato. Ma chi è che a Milano su questa storia degli ovuli? Chi ti ha voluto incastrare? Andiamo al sodo. Chi La Mangiacarne. Hanno fatto la denuncia. Prima loro sono partiti tutto e da lì è partito. Sono attaccati tutti. Severino, questa storia. Come dice Roma, per darmi in culo a tutti. Per dare in culo a tutti. Parenzo, fai una riassunto. No, Parenzo, sono schifato da te. Io ho avuto la ricevuta. Io adesso vado in Israele per finire. In asilo politico. Perché vai a fare come in asilo politico? Un ebreo assolutamente senza coraggio, senza palle. Sei un ebreo senza palle. Io sono un ebreo invece con le palle, capito? Però Parenzo. Ma io non ho capito un cazzo di quello che hai in questo momento. Io ho chiesto asilo politico in Israele e tu parli male di me in giro. Ma perché fai? Ma non sei mai venuto. Quando è che hai chiesto asilo politico in Israele? Da un tempo, se devo dire. E mica gliel'hanno dato, però. Ma io vado, no, non come dato, io vado in asilo scientifico appena. Ma che vuol dire asilo scientifico? Guarda, Parenzo, in Israele è più efficiente di te. Ma io non c'entro niente. Cosa è un panorama della regione italiana? Come finisce sta storia? I processi come finiscono? Che io sono assolto in tutto . E mi rimane adesso loro allungano il tempo, perché più tempo prendo più mi bruciano a fuoco lento. La storia con tua moglie come finisce invece? Pure là c'è ho finito, sono ritornato a casa. Cioè ti sei rimesso con tua moglie? Sono tornato a casa. Veramente? T'ha perdonato tutto? È ovvio. Come è ovvio? Tu ovvio, una moglie innamorata perdona. Ma ho capito, ma era stata pure con la guardia del corpo, hai detto una volta. Ma quella, sai, senti, io ho partecipato a un film di Marco Bellocchi, si chiama Amore e Rabbia. Una volta l'amore porta la rabbia, te lo ricordi? Ma tanto anche tu hai tradito mille volte tua moglie, che te frega. Ma perché tu sei tu poco, tu dici pure dopo un secondo, t'ho visto io. Quello può essere, quello può essere. Sempre, non può essere, tutte le sere, pure abbiamo assunto a male, t'ho visto. Ma cosa che vuol dire? Ma cosa dice? Stanieri. Ma quante io posso dire che i 50-100.000 viste non ho mai I never touch the women. No, ma quante donne, quante donne hai avuto? Mille donne ce l'hai avuto o no? No, io ho avuto soltanto una donna. Chi è? My wife. Ma dai, ma smetti. Ma senti, ma you are the little fuck man. No, ma che fuck man? Ma you are the little fuck man. Senti, ma qualcuno ci ha detto che il sesso anale fa male, per esempio. È vero o no? Io dico il sesso, tutto il sesso è buono. Tutto, anche quello anale? Anche quello che fa c'è chi paura. E anche quello là, anche il sesso anale fa bene? No, dipende dai stimoli che arrivano a livello cerebrale per attivare la serotonina. Questa serotonina è famosa. Le pilloline servono? Le pilloline? Il testicolo, la parte importante. Come il testicolo? Che c'entra il testicolo? Il testicolo fa gli ormoni, senza il testicolo non puoi eccitare, anche se prendi mille Viagra. Ma il testicolo c'è sempre, che c'entra? No, ma guarda qua, c'è chi ha 10 mm e chi ha 35 mm. Ah, dipende anche dalla grandezza. Mussolini aveva 35. Mussolini 35 mm del testicolo? Uno famoso, conosco io, un famoso persona, tanto quanto c'è 12 mm, non si drizza mai. Mamma mia, ragazzi. Fred testicolo. Ciao, Severi, ciao. Ciao, non ciao. Cambia niente questo paese, bisogna fare una rivolta civile. Ma... Ciao, ciao. Il signor Severino Antinori. Curiosa questa teoria sui testicoli, caro Davide. Questa è da sviluppare. Sì, no? Questa è molto interessante. Però posso dirti che su 8 minuti di quel che non ho. Le volte capisco che non c'era niente. Ma denunciato. Avete fatto. Quella è lesbica. No, la cosa è lesbica. Quella, cioè, no, delle cose detto, gravissime. Ha detto la ginecologa di Milano, molto famosa, Custerman, una lesbica. No, ha detto una lesbica. È una diffamazione bella poi e buona detto, e anche molto grave quello che poi ha detto. Poi che ha detto? Io che cosa non ha detto? Solo mi dissocio, ma lo reputo una stupidaggine. No, ma che ha detto? Aspetta, dopo la Custerman è lesbica. Ma ha detto sì, pure... ma su tutti ha sparato. Ma poi come parlare del testo? Comunque la grandezza dei testicoli è interessante, cioè il testicolo di 35 mm, no, chi ha il testicolo più grande significa che gli si drizza di più il pisello, capito? Non sai nulla di questo? Di questo l'ho appreso. Cioè testicoli grandi, lui dice di avere i testicoli di 35 mm. Non lo so, non l'ho mai misurato, io non so. Misurati sto cazzo dei testicoli, adesso no? Cioè misurati il testicolo. Ma non è tra le mie priorità. No, perché tra l'altro però... per misurare il testicolo è complicato. Voi che siete in macchina, cari amici, mollate il volante! E con un piccolo metro che potete facilmente acquistare in un qualunque tabaccheria, perché 35 fate Felice Cruciani, mandate le vostre foto all'800. No, ma 35 mm che vuol dire? Millimetri o centimetri poi? No, sarà millimetri, perché sì, 35 centimetri è possibile. Ma è elefante, che roba è? No, appunto, 35 millimetri, ma il testicolo, cioè le palle. Ma perché ti appassiona? No, ma è così curiosa tanto questa cosa qua. Comunque me ne sto toccando adesso, giusto così per pesarle. Che porcheria, ne so. Che porcheria. Ave Parenzo, miserabili, te salutan. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Attenzione, Brecco. Ci sono due fratelli di Pomezia, camionisti, che dicono che tutti noi camionisti siamo fascisti. Sono due fratelli che non hanno capito un cazzo della vita e hanno la testa piena di merda. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Altro che fascisti, ma vaffanculo, avete la testa piena di merda. Ragazzi, io sto pensando ancora ai 35 mm dei testicoli di ottimo invece questi camionisti, questi camionisti comunisti, ottimo. Ma ottimo. Che ottimo. So che ci siete, so che siete tanti. Fatevi sentire, chiamate 800 24 0024. Siete la maggioranza, ma tirate fuori, non dico che cosa, in questo non quei 23 centimetri che avete del basso ventre, ma tirate fuori la voce, fatevi sentire. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bam, diera lo so, la, bravi, fuori, ci no, no, siete, ma continua, continua, siete tanti. Poi la parte migliore è avanti popolo, adesso fuori il cannone, rivoluzione, capito? Come fa, come fa, come fa, come fa? No, cantala bene, dai, sciocca la zanzara, Parenzo canta bandiera rossa. Dal cannone, avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Ecco, si scalda, vai. Avanti popolo, fuori il cannone, rivoluzione, vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far evviva la boccia e la libertà. Ma non era boccia, è un po' un conflitto di interessi, però voglio mettere insieme, voglio mettere insieme il nostro editore liberale vero che fa trasmettere questa trasmissione con gli ideali di sinistra che possono convivere nel grande ulivo mondiale che è rappresentato qui alla Zanzara, perché questa trasmissione rappresenta l'ulivo mondiale, tutto sommato, mondiale perché che? Rappresenta il meglio della tradizione operaia con il meglio della tradizione dei padroni confindustriale. Ma non è vero. Questo è questa sintesi perfetta di rivoluzione e innovazione, capito? Tiene insieme il capitale, il lavoro, l'operaio massa e il padrone che non è più padrone della ferriera, ma è illuminato, un padrone aperto, un padrone è impazzito, questo... ragazzi. Parenzo, lei è un grande. Ecco. Chi è questo? Ecco, vedi il rabbino Rav Shlomo Bechor mi scrive: mi hanno detto che hanno parlato di me alla radio. Dico, sei stato te? Sì, certo, rabbino. Ti aspettiamo presto per parlare di sessualità. Sì. Ed ebraismo, ecco, sì. No, sessualità, che cosa sessualità? Quanto scopa, quanto non scopa? No, adesso non puoi metterla così al rabbino. Ma come no, certo, assolutamente. Comunque sì, caro Shlomo Bechor, ti chiameremo magari domani e faremo questa Ennio chiacchierata da Milano, educata sui temi. Ennio da Milano, sì, molto educata. A noi cari. Ennio, vai. Dimmi, pronto? Dimmi, Ennio, dimmi. Pronto? Vai, dimmi, Ennio, è pronto. Mi sembra che siamo... qui è pronto anche da mangiare. Ma intendevo dire, dopo aver sentito Bandiera Rossa, io adesso mi è passato anche l'appetito. Sì, ma infatti è una vergogna. Parenzo ha dato un timbro comunista a questa trasmissione che non è affatto... Cioè, è veramente una follia. La gente si ribella di fronte. Il comunismo è stato una merda! Il comunismo è stata l'oppressione dei popoli! È stata una roba pazzesca! Ha ammazzato milioni di persone! Una vergogna inaudita! E lui con Bandiera Rossa! Hai cantato un inno di assassini! Hai cantato un inno che è stato il simbolo di un grande assassinio, di un grande olocausto mondiale! Ma figurati, un grande inno di liberazione dei popoli, dai, su. se penso quando da bambino a scuola mi facevano cantare le canzoni dei partigiani, certo, che hanno liberato l'Italia dal nazifascismo, lei dovrebbe essere contento. Va bene, ho chiamato per un'altra cosa. Vergogna. Ho sentito di quella storia del prete di Bari. Terribile. Sì. Ecco, quello lì di Vasto, quel signore di Vasto che ha ammazzato un ragazzo di 22 anni, io ho avuto una figlia investita con 5 mesi all'ospedale più di là che di qua, e gli ho detto che quel signore non lo volevo vedere, era sulle strisce, non ha fatto apposta, non lo volevo vedere. Ma quella del prete, se il papà, come ho sentito prima... Sì, adesso dovremmo chiamarlo adesso, guarda, dovremmo chiamarlo adesso. Ha visto, è certo che questo tizio ha fatto questa cosa al figlio, fosse mio figlio io lo prendo e l'ammazzo, non ci penso neanche un secondo. Cioè, tu stai dicendo, ecco un altro, cioè tu stai dicendo, me lo mangio a morsi. Cioè tu stai dicendo, se un prete o chiunque altro mettesse la mano addosso a tuo figlio, che io ne ho 5, gli strappi il cuore, gli strappi il cuore, sempre immagini ireniche. Che vuol dire immagini? Lo so benissimo, immagini ireniche, pacifiste. Roba pazzesca. Ennio, comunque tu ammazzeresti uno che mette addosso la mano a tuo figlio, non giusto? Ci prendo un secondo. Sì. Vabbè, Davide Bari, vabbè. Davide Bari. E lui liquida con vabbè. Gli strappo il cuore a morsi, maledetto, lo mangio. Vabbè, traffico. Aspetta, possiamo chiamare Benito? Così? Chiamiamo Benito. Ecco, Benito è il papà, aspetta, fermo, questo è molto interessante. È il papà di uno dei ragazzi stuprati in Puglia dal prete che non è stato denunciato dalla Chiesa. Pazzesco. Perché il punto è sempre questo. Purtroppo preti pedofili, o non solo preti pedofili, ce ne sono tanti. Questo non è stato denunciato dalla Chiesa e dunque è riuscito ad impazzare per mesi, per anni, diventando allenatore di una squadra di calcio e violentando altri bambini, una vergogna. Diciamo solo il nome, Benito, chiamiamo. Pronto? Signor Benito? Sì, salve. Buonasera, sono Cruciani, Radio 24. Sì. C'è anche Parenzo, buonasera. Buonasera, Buonasera, buonasera. Senta, allora, suo figlio quanti anni ha oggi? 13 anni. All'epoca delle violenze aveva? 11. Dunque, due anni fa? Sì. E oggi come sta? Abbastanza bene. Dunque, ha recuperato un po'? Sì, l'importante è che quello che è successo non se ne parli. Altrimenti cade un poco giù di morale. Il trauma, dico, gli è rimasto un trauma di questa vicenda pazzesca, di questo abuso. No, il trauma, se uno non ne parla non succede niente, un ragazzo tranquillo, scherza, gioca, però se uno distrattamente accenna qualcosa, no. Va giù di morale. Senta, non le voglio far raccontare le cose nei dettagli, per carità, però che tipo di violenza ha subito, un po' per far capire a chi ci ascolta a che cosa si può arrivare. Che tipo di violenza ha subito suo figlio? Sessuale. Ma ha rapporti sessuali completi? Rapporti sessuali non credo proprio totali, perché non abbiamo mai parlato e perlomeno gli psicologi non le fanno sapere queste cose. Però violenza sessuale sì. Violenze sessuali ripetute? Sì. Ripetute per quanto tempo? Un anno e mezzo, due, fino a quando non è stato scoperto tutto. Ma lui non ha mai parlato prima durante questa violenza? No, con i genitori non ne ha mai parlato. Ma aveva paura ad andare a giocare a calcio o no? Cioè si sentiva a disagio? Evidentemente c'è stato qualche periodo che lui si sentiva a disagio, non voleva né giocare a calcio né andare al dopo scuola da questo signore qua. Come è venuta fuori la cosa? È venuta fuori che noi gli siamo stati chiamati dalla stazione dei carabinieri del nostro paesino, che ci hanno mostrato una foto dicendo: questo è tuo figlio? Sì, mio figlio, cosa è successo? Sì, no, niente. Dopo successivamente siamo stati interpellati parecchie volte in caserma, comunque piano piano hanno iniziato a dirci quello che stava in procedimento. Cioè vi hanno detto la verità poco a poco? A poco, sì, la verità proprio l'abbiamo vista a Bari, al tribunale ci hanno convocato, là ci hanno fatto vedere tutti i tabulati, dei messaggi, delle foto. Cioè il prete Don Gianni scambiava messaggi con suo figlio? Sì, e anche mandava anche delle foto? Sì, e le divulgava pure, diciamo, forse altri amici suoi, non lo so. Ma ad altri preti anche, o no? No, questo non abbiamo mai parlato e neanche l'abbiamo saputo. Ma foto di dettagli, di rapporti sessuali? Sì, sì, sì, sì, no, rapporti di del membro maschile, ecco. Cioè lei ha visto suo figlio, scusi se glielo ricordo, lei sì. ha visto suo figlio in foto fare sesso con questo prete? No, proprio sesso no, però posizione nude sì. Ma la cosa incredibile... Ma dove? Lì in curia? Dove? No, a casa sua. A casa del prete? Ma come faceva? Sì. Lui allenava la squadra e poi si riportava a casa? Lui allenava la squadra, faceva dopo scuola e quindi facendo dopo scuola ce l'aveva in casa e con le sue con il suo inganno trascinava questo mio figlio a questi rapporti. Ma singolarmente o anche in gruppo? No, singolarmente. Ma lei non ha mai avuto il sospetto di qualcosa che non no, tornava? No, mai, perché mio figlio non ha mai parlato con me, con mia moglie, con gli amici, con le zie, mai. E non ha mai avuto un sospetto di un atteggiamento di suo figlio, no, di un qualcosa, no, mai, niente? Mai, perché lui andava dopo scuola, veniva, si cambiava, usciva con gli amici. Senta, la cosa incredibile è che, questo, come lei ormai sa, che questo prete, l'abbiamo detto più volte, questo prete era stato scoperto prima dalla Chiesa e la Chiesa però non ha denunciato, dunque è diventato allenatore della squadra dove giocava sì, suo figlio, sì. Già pedofilo, cioè un pedofilo sì. allenatore, senza che la Chiesa avesse detto alla magistratura di quello che aveva fatto. Tutto sì. questo, che cosa, quanta rabbia prova nei confronti della Chiesa lei? Troppa, adesso proprio troppa. Anzi, è ancora cattolico lei, credente ancora? Credendo in Dio sì. Nella Chiesa Dio, no? Sì. Nella Chiesa no, non ne parliamo proprio. Lei se avesse di fronte Don Gianni, cosa farebbe? Allora, la verità, io sono un ragazzo molto tranquillo, molto... Perché lei è giovane, no? Quanti anni ha? 48. 48. Però non so se riuscì a reagire facendolo del male oppure no, faccio fare agli altri. Cioè in che senso faccio fare agli altri? Nel senso della giustizia, per adesso la giustizia, però non lo so la reazione che avrei. Cioè uno che ha messo le mani addosso a suo figlio, che ha fatto quello che ha fatto, lo ha violato a 11 anni, a 12 anni, cosa sì. merita secondo lei? Non glielo posso dire, ma lo immaginate. No, non lo immagino, me lo dica cosa merita secondo lei? Un imbiccagione. Un imbiccagione come minimo, un imbiccagione. E qualcuno pensa addirittura che i pedofili vadano castrati, cioè ci voglia sì. un'iniezione, no? La castrazione chimica. Castrazione chimica, certo, questo è. Sì, ma non ai pedofili, io inizierei dai preti proprio. Quali? Quelli che hanno taciuto o in generale i preti? No, i preti, quelli che hanno taciuto, perché tutti, cioè non tutti, la maggior parte sapeva di questa persona, il suo atteggiamento, i problemi che aveva sì. e nessuno ne ha parlato. È più colpevole chi non ne ha parlato del malato sì, pedofilo? Sì, questo sicuramente. Noi saremmo stati più attenti nel nostro paese, saremmo stati più attenti, avremmo evitato parecchie cose e tutto questo potesse non succedeva. Però adesso è successo e bisogna sbrigare pure questo, ma la Chiesa sapeva. Ma lei vuole rivolgersi direttamente all'ex Papa Ratzinger e a Papa Francesco? No, Papa Francesco lo ha detto anche. Sì, avrei un colloquio direttamente con Papa Francesco, un colloquio amichevole, diciamo così, sarei d'accordo. Per dirgli cosa? Ma anche un incontro solo amichevole, anche parlando un poco di quello che sia successo nella mia famiglia, di come ci ha sconvolto tutta la famiglia, perché non è solo il fatto di mio figlio, dopo tutta la famiglia si è sconvolta, certo. si è ribellata. Lei quanti figli ha oltre a... Due. Questo ragazzo di 13 anni e una ragazza di 19. Perché tutte le altre famiglie coinvolte nella vicenda, le altre famiglie delle persone, dei bambini violati, non hanno fatto denunce, non si sono costituite parti civili, cioè non hanno denunciato? Io questo non lo so, mi meraviglio comunque. Io cioè non per so. Vergogna? Non posso dire niente perché non lo so. E Domenico Cornacchia, il vescovo che all'epoca mise fuori dalla chiesa Don Gianni, ma non disse sì. nulla alla magistratura? Non disse nulla alla magistratura e neanche diciamo ai cittadini. Cosa prova nei suoi confronti? Va condannato anche lui? A mio parere sì, va condannato per concorso in pedofilia. Sì, se lui sapeva sì, doveva mettere in guardia noi cittadini, non lo so come, ma ci doveva mettere in guardia. È stato omertoso. Sicuramente. Complice della pedofilia. Sì. Ogni tanto suo figlio parla di Don Gianni, come ne parla? No, mai. Ha paura? Mai. Ha ancora sì, paura di lui? Sì, sì. Cioè che dice? Ancora esce. Dice, ma non è che esce da dove sta. Ha paura che esca dal carcere. C'ha paura. Va bene, grazie. Un abbraccio. Da. Un abbraccio da. Forte, un abbraccio. Non entrerà più in chiesa suo figlio? Ma non lo so, in chiesa? No. Adesso proprio no. E a calcio gioca ancora? A calcio sì. Però... forse meno male che c'è il calcio, almeno si non pensa a queste cose qua. Però non metterà più piede in una chiesa, però. No, penso proprio di no. Arrivederci. Saluti. Arrivederci. Ragazzi, vi rendete conto di quello che è successo? Violentato per 2 anni. Non ci sono parole. Violentato per... Nessuno ha detto niente. La chiesa muta, silenziosa. L'hanno solo cacciato dalla chiesa. Cioè, praticamente se ne sono lavati le mani. Cioè, lo hanno spretato. Lo hanno ridotto allo stato laicale. Come si dice, Duca, adesso, adesso non è più un problema nostro. Noi non lo diciamo nemmeno però alla magistratura. Guarda, questi bambini. Preti qua, questi vescovi dovrebbero veramente andare a fare in culo. Dovrebbero essere accusati. Accusati di complicità in pedofilia. Complicità nei delitti che ha commesso questo prete. Davide da Bari, dai Davide. Sì, ciao, buonasera. Volevo parlare dell'omicidio di Vasco. Dimmi. Secondo me, se non ci fosse la legge, se non ci fosse la galera, saremmo tutti degli assassini, o quasi tutti. Che vuoi dire? Una buona parte degli italiani avremmo commesso questo delitto. Ma non è vero, cioè, non... cioè perché tu avresti ammazzato quello là perché mi ha messo sotto? Credo di sì. Ragazzi, questi sono come quelli che scrivono su Facebook. Ma tu non avresti ammazzato nessuno, secondo me. Non avresti ammazzato nessuno. Perché lo avresti ammazzato? Scusa, se uno mette sotto. Conoscendomi, sì, l'avrei fatto. Cioè, se uno passa col rosso e mette sotto tua moglie, tuo figlio, una persona a te cara, tu prendi o lo ammazzi? Penso di sì. Se fosse vero quello che dice lui, ci dovrebbe essere un'ecatombe, perché purtroppo incidenti stradali mortali ce ne sono in continuazione. E per fortuna chi subisce un torto non ha la vendetta che questo signore dice di voler praticare. Questo qua dice la sua, dice una cosa molto chiara. Ci sono i classici, come su Twitter e su Facebook. Ma non uguale. È vero, se ci sta dicendo, sono ci sta chiamando. Sono gli insultatori di professione, gli odiatori di professione, quelli dal grilletto facile, anzi dalla tastiera facile. Fermo lì, a domani ragazzi, ciao. Ciao. Andate a fanculo. Siete due merde. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.